Dai, ma quello fa il previously, visto che tra l'altro Giorgio sì, non c'era. Il previously, chi lo fa? Aspetta. Indica tu. Aspetta, il prescelto. Da dove iniziamo? Indica il prescelto. Siete in 5, non c'è 5. No. Dove si iniziava? Io ho con Gogismo. Hai più probabilità di uscire. Vabbè. Cos'è? Da dove sei partito? 2. Ah, no, cazzo. Quindi non stavo il D4 in effetti. Allora. Dai, anche tu. Ah, è vero, non c'era. Da dove iniziava? 4. 1, 2, 3, 4. Vai. Ok, allora, previously. Allora, l'ultima sessione è cominciata. Dopo che abbiamo sconfitto il pantano. Dopo che avevamo sconfitto Eil Aberton, esatto, che era tornato. Abbiamo lasciato proprio era lì, tornato alla per fine. Noi. No, avevamo anche luttato. Esatto. Vabbè, poi l'abbiamo luttato, abbiamo scoperto una pistola molto potente per lei, eccetera. Sono arrivati Yunkai Shek e tutti gli altri sul ponte. E gli abbiamo, detto che cosa era successo. Intanto. No, il furto della... No, è dopo. Ok, niente, guarda, niente, siamo andati tutti a letto tranquillizzati. Il giorno dopo, la nave è stata assaltata... Perché è di notte, giusto? Sì, esatto. È successo di notte. Ci siamo addormentati. Il giorno dopo la nave è stata assaltata... Tu hai fatto una prova di conoscenza e ti è venuto in mente ah, che... Ah, giusto. Questo fantasma qua è dovuto sempre probabilmente agli effetti della sratite. Certo. Questo ritorno, anche lui era confuso perché credeva che noi fossimo morti, se ti ricordi. Sì, sì, sì, ha detto, c'era morto voi lui, insomma c'era questa confusione di fondo che è causata dagli effetti negativi della sdratite, no? Il giorno dopo avvistiamo abbastanza vicino a noi uno scorpione gigante che emerge dalla sabbia e fa per assaltare la nave corredato di scorpioncini piccolini, e Yunkai Shek ci manda a sconfiggerlo da soli per constatare le nostre capacità. Via terra, non so. Via terra, ci butta nel deserto. Nel deserto, facciamo un piccolo trattapiedi e ci scontriamo contro questo scorpione. Baka, che coraggiosamente lo affronta in contatto fisico, esatto, in prima linea, praticamente rischia di morire. Arriva avvelenato. A pochissimi punti ferita con al cardiopalma, perché poi lui, essendo un barbaro, se esce esce dall'ira, muore anziché avere la possibilità di andare sotto lo zero per un po', come invece gli altri. Certo. E niente, e poi aveva appunto danni alla costituzione, un casino. Per risolvere questa situazione ci siamo rivolti ad un personaggio fondamentale con cui Damasco aveva intrattenuto una conversazione poco prima. Praticamente Corinne, esatto, della nave, aveva svelato a Damasco, ma non a noi, di essere l'ultimo probabilmente esponente di una importantissima congregazione religiosa. Sì, esatto. Che erano i cantori. Praticamente le cantrici. Che erano dotate di un potere curativo impressionante, no? Cioè, praticamente Danilo ha dovuto fare questa cosa per dimostrarci che aveva trovato una combo sgravissima no, per non curare. Non l'ho fatto per quello. Non l'ho, cioè... Sto scherzando. Comunque sa di fatto che ha trovato una combo sgravissima per curare tipo 50 danni ad area a tutti. Che in realtà ho visto guarda, è buono. Poi ho detto, ma c'è sta roba strafiga che si può fare. Ecco, infatti. 50 danni ad area. A tutti a round. Quando curare diventa non è più poco efficiente. Che allora dice che sono delle fitte poi. Vabbè, comunque sia, si è rivelato, però era rimasta celata la sua identità, l'aveva tenuta celata perché Yunkai Shek si era fatto carico del loro sterminio quando era ancora un generale dell'esercito, giusto? Ah, esatto. Dell'esercito dell'impero. E quindi giustamente lei temeva eventuali ripercussioni. Le portiamo Baka. Lei decide altruisticamente e anche perché l'aveva promesso a Damasco, di aiutarci, aiuta Baka, lo salva davanti a Yunkai Shek, quindi con il timore di essere poi uccisa. Tuttavia Yunkai Shek non sembra dare peso alla questione, probabilmente perché lui eseguiva solo l'ordine dell'impero, certo, e quindi non gli importa più assolutamente nulla. Anzi, probabilmente sa che in questo momento è utilissima una che cura 50 punti ferita ad area round e poi la ucciderà dopo, non lo sappiamo. Al massimo. Esatto. E puramente... Durante la battaglia troppo facile. Puramente utilitaristico. E niente. Tuttavia, durante il trambusto della battaglia sono stati, è stato trafugato il carico di Asratite. Quindi alla fine l'avete ammazzato. Comunque Jung è stato un attimo in dubbio su ucciderla. Ma scusate, chi era in battaglia? Voi quattro? Noi normalmente. No, perché non c'era bisogno di qualcuno che si occupasse. Sì. E no, Jung, sì, Jung non era in battaglia. No, non era in battaglia. No, Jung no, ci ha mandati per studiarci. Sì, perché siccome avete già loro hanno già sconfitto il fantasma. No? E lei come è arrivata all'altro sito? No, poi si sono teletrasportati sulla nave. Sì, siamo corsi nel giro di un'ora. Jung ha un attimo esitato su se ucciderla o meno. E lei ha notato anche un tremito nella sua mano. La Damasco, che ha fatto un tiro molto alto di perception. Di sense motive. Ok. Allora, dicevamo. Ah sì, durante la battaglia con lo scorpione si scopre dopo che sono stati trafugati, è stato trafugato tutto il carico di Asratite che ci consentiva di attivare gli scudi, per cui non venivamo praticamente ridotti a brandelli durante la navigazione. E che è un vero problema, perché non possiamo più continuare senza Asratite. Certo. Ok? Abbiamo fatto il giro della nave. È stato trafugato dalla nave questo carico. Una Quelli volta che mi distraggo un attimo. Noi che combattevano, sì, il responsabile del carico dovrebbe essere ucciso per questo. Sì, certo, che casualmente poi in battaglia quasi morto, quindi sai com'è. Sono lì in 12 sulla nave così. È il karma, questo è il karma. Non è guardi il che karma, è che sono degli incapaci. Io e l'altro tipo, le guardie. Io e lo schiavo della detti all'ordine sicurezza tra persone. Ok, che fai un attimo, noi siamo gli unici non sospettati. Tu sei sospettato invece. Quelli che combattevano non lo sono, perché ovviamente non sono stati loro. Io stavo dormendo. Dopo una ricerca nella nave non abbiamo trovato niente. Esatto, però dicono tutti così. Perché hai dormito tutto il giorno? Io non ho detto niente, Jung. Esatto. Comunque abbiamo scorto in lontananza un bagliore che si rifletteva in una delle lame di queste lame che uscivano di queste lame che escono fuoriescono dal deserto. Il vostro Avram ha triangolato la posizione, no vabbè, ha studiato l'angolo di rifrazione così ed è riuscito a capire che a un certo punto in lontananza le leggi di Snell, ha tirato un 18 e ha tirato un tiro alto ed è riuscito praticamente a capire a che distanza si trovava questo luogo e in che direzione si trovava questo baluginio. Ci siamo diretti in questo baluginio nella speranza di trovare la nostra Asratite o dell'altra Asratite. Va bene, la zona è ricca di Asratite, ma ovviamente è grezza e non è utilizzabile. Cioè, Ok, quindi anche se la trovassimo... No, nel senso, ce la trovate dell'Asratite lavorata, per così dire. Ah, ok. Che sia utile alla nave. Cioè, nel senso, io continuo a ribadire che questa zona è ricca, ci sono effetti collaterali, ma non è che uno può... No, certo. Ma Asratite, ascolta, Asratite lavorata quindi è solo quella che ci è stata trafugata. Ma quindi l'Asratite è possibile trovare? È un minerale che a noi serve in polvere, diciamo, una roba del genere. Cioè, sì, diciamo che nel senso è molto grezza e richiederebbe difficile lavorazione, però sì, è possibile trovarla, diciamo, più pura. Quindi, sostanzialmente, certo. Adesso noi speriamo di ritrovare il nostro carico. Sì, il vostro carico o in alternativa dell'altra Asratite. Visto... No, niente. Okay. Se siete comodi o volete? Comodissimi, grazie. No, benissimo. Però ve lo do che magari vi danno fastidio. Per niente, grazie. Bene, riassumendo, aspetta solo. Avete visto questo bagliore? Sì, le ultime due cose. Siccome siamo in una democrazia, Jung Shek ci ha ordinato di... Ma non ci siamo fatti qualche domanda su questi scorpioni? È normale che... Sì, sono delle creature... Normali scorpioncini. È una battaglia così per far piede. Tutto sommato. Fate fare una cosa che mi ero promesso che avrei fatta quando avrei avuto l'occasione, perché tanto che non la facevo. Cosa sarebbe? Ho paura di saperlo. Due bottiglie che... No! Non far scontrare queste bottiglie. No, vuole girare, poi vedere se gira più veloce. Ah, ok, quel peso. Momento angolare. Velocità angolare. Ecco, voi il master che ha 10 anni. Esatto. Scopre la fisica. Usa le bottiglie come contrappeso. Cioè, me l'ha spiegato un esercitato dal primo anno, sta cosa. Ok. E non l'hai mai più fatto? No, non l'ho più fatto da allora. Ce l'ho fatto la prima volta lì e poi non l'ho problemi atomico. Bene, dopo questo importante... Appena c'è una segna notabile. Allora, perché non ti sei mai trovato con due bottiglie vicine? No, infatti. Cavolo, sì. È una situazione parecchio grave. Ho capito. Va bene. Ci dirigiamo verso questo bagliore. Ci dirigiamo verso questo bagliore. che può essere a un giorno di sì, rotta. Ma inviati da Jung, la squadra è composta da tutti, sì, a Piotti. Silenzio, la squadra è composta da tutti noi, compreso nessuno ha detto niente a Jung mentre ci mandava a Piotti verso questo posto. Da quanto ho capito è un po' lontano. Io non avrei postato obiezioni a Jung, proprio così. Ho detto un anno, volevo dire un giorno, scusa. Un giorno di cammino. Sì, solo dice Jung. O lo fai oppure non lo fai oppure scimitarre no, catanate e non li vedi nemmeno proprio, cioè. Quindi noi 5 più la nostra curatrice. Mi piacerebbe. Più ci dà anche quello. Jung ha detto il master ha deciso di non fornirci la curatrice super mega sgrava. Quindi mi chiedo come. Jung ha mandato noi e Istral Sesin, l'omosessuale. Istral Sesin, che è l'omnisessuale. Ranger, quello che parla, che parla tutto così. Che la scorsa sessione ha anche fatto delle avance. Elin. E forse anche un po' Abaca. E forse anche Guerimbert, l'Halfling o un altro. Due ce n'aveva dato. No, solo lui. Ah, solo lui? Sì, perché c'era lui anche. Ti ricordi che era l'altro? Cioè, l'altro era lui. L'altro ha detto l'altro Cerezen. Come ti chiami l'altro? Scusami. Khan. Siamo giunti in lontananza. Abbiamo visto una piramide in corrispondenza di questo bagliore. Ma la piramide di che materiale era? Vetro. Di vetro. Il vetro opaco. Il Louvre. Che cosa? Abbiamo visto la piramide di vetro del Louvre. Se vuoi c'è un bookshop dentro per prendere una cartolina. No. Abbiamo trovato, anziché gli addetti al bookshop, abbiamo trovato due golem giganti di ferro che proteggevano l'ingresso. Avram coraggiosamente ha detto ci vado io a parlamentare con i goblin. Con i golem, scusate. Ma altri decine di metri. E per quello che avete visto voi, lui si è avvicinato, tranquillamente è andato a parlare con i golem, ma voi non avete sentito cosa si sono questo detti. Questo è un golem di ferro. Quanto è alto? È un Iron Man. 2,30 metri. 2 metri e passa. Ah, ok, non è un gigante. Non è basso. Vabbè, comunque. Non è 2,30 metri. Più o meno alto come te. E passo. No, io non so quanto sono alto, non penso sia stato 2 metri. Altro 12 piedi, cioè più di 3 metri. Più di 3 metri. Ecco. Allora, io mi sono messo 1,80 m come altezza. E pesa 5.000 pounds, che potrebbe essere come un grammo, 100.000 kg per me, non so quanto sia. No, nemmeno io. Vediamo se riesco a sollevarli. Un momento, probabile. Sostanzialmente ha fatto per parlamentare con i golem, non ha avuto risposta, ha fatto per entrare. E l'ultima scena della sessione è stata questa randellata, cioè, tu hai fatto dei golem sul povero Avram che è stato colpito. Facciamo che mi hanno colpito. E no, non si è dismissato perché ho fatto in modo che praticamente il povero Avram venisse colpito e lacerato in due dall'attacco dei golem. Quindi noi non sappiamo. E questo è quello che vedete. In realtà lui ha dichiarato che faceva mislead prima di andare. Sostanzialmente è un incantesimo che crea un doppio di me stesso e rende invisibile me. E quindi quello che è stato colpito è il doppio di me stesso. Ah, ovviamente okay. I golem hanno sderivato subito. Svanisce subito quando viene colpito. Cioè, no, i golem hanno capito quando l'hanno colpito. Sì, i golem suppongo proprio di sì. Poi i golem sono immuni alla magia, cioè una roba. Era solo per era solo per vedere se avevano voglia di parlare oppure no. Cioè, non come so se devono visto. Fare un will save, okay. Disbelieve, non so. Domanda, dobbiamo livellare adesso o dopo? Ma tu sai cosa il tuo coso ha detto ai golem? Cosa... La tua copia? Sì, gli ho detto di dire due cose e poi entrare. Lui vede e sente attraverso l'incantesimo. No, questo no, mi sono sbagliato. Okay. Un altro incantesimo che mi fa vedere. Però tu a noi hai detto che stai venendo tu. Sì, ho detto ci penso io. Ah, okay. Quindi voi avete visto questo mago crollare al suolo. Dobbiamo livellare adesso dopo. Cioè, prima dopo il combattimento. Adesso. Ehi, stop. Bene, ripartiamo livellati e pronti a farci. A cagnare da questi golem. Partiamo con la sessione salva il barbaro di metallo. Vediamo un po' se questo livello si sente. O se si sente. No, il livello c'era come. Più o meno come quello d'altra. Come il. Sei sicuro? Scorpion. L'altro era UCR 15. Perché sono così due, sono UCR 13. Qua 15. Sì, vabbè. Però mi sono un po' diverse. Vediamo quanto è diverso, dico perché io. Perché è così spostato verso di qua? Cosa? Questa è la piramide. Che dati ti servono per tirare? Perché hai fatto un di 8? Però... perché avevo fatti a caso? Ma capito? Sono un di 8? Autismo per queste cose. Andiamo di 8. Ah. Solo uno? Sì. 5 più 2, 7. Io penso di essere più vicino, cioè, tipo qua, allora non sono più lontani. Sono avvicinati? Beh, mi sembra già abbastanza vicino così, onestamente. Sì. Ah, appunto. Ah, no, noi dicevamo magari un po' più indietro perché lui ha detto aspettate qui, vado avanti io in teoria. Sì, ho capito, ma la lavagna è quella che è. Ok. Non ha tutto. Siccome devo fare anche lui. Certo. Tipo qua. Lui qui. Lui. Ah, io sono indietro, quindi, addirittura. Tu hai detto, no? Che tenere la distanza. No, come lui ha detto, vado avanti io, quindi comunque rispetto a noi si è avvicinato. No. Sì, ma il suo doppio è si è avvicinato lui è... Comunque ha ragione, ero comunque abbastanza lontano. Ha detto che eri indietro. Voi siete in 4 più 1, 5, no? Perché loro intanto si sono avvicinati, quindi. Uno chi è? Posso avvicinarmi anch'io con loro? Hai detto che stavi lontano l'altra volta. Ho capito, però loro come fanno a essere più avanti di noi? Comunque non fa niente lo stesso. No, perché lui aveva detto fermatevi qui, vado avanti io, poi ha fatto un'opzione. Ma comunque va bene, non sì, sì, vabbè, poco cambia, penso. Basta già visto subito tipo che tu sei lì. E poi c'è anche Istra, comunque. Ah già, c'è anche Ricchione. No, questo qui è Istra. No, ah, non c'è nessuno con la I, bello. Semplicemente fortunati sta sessione con le lettere, devo dire. Vero. Allora c'è... Ah, qua c'è... D, qua c'è... K, sì, qua ci sono E B. B. Cos'è che faceva io? Ripetimi un altro, scusa. Io l'arciere. Ok. Io amico tuo. Mi basta. Adesso siamo lì a chiacchierare. No, non vi dividete. Sto facendo vedere. Vediamo chi è più bravo con l'arco. Non ti conviene perché ti troverò anche con te. No, perché aveva 7 di carisma. Le mie frecce quanto sono pelato, molto cioè, più appuntite delle sue. Non ho pelato. Io uso, no, però aspetta. Voi avete visto praticamente succede questa cosa. Voi avete visto cadere Avram, no? Qui avete presente, l'effetto che vi ha fatto è stato una matita permanentemente che poi non devo prestare a gente. Tieni. L'effetto è stato quello di Luke Skywalker che sulla Morte Nera vede crollare Obi-Wan Kenobi sotto la spada di no. E praticamente a un certo, però prima che stiate per iniziare la battaglia esatto, no, esatto. Contro la tunica, no? Esatto, contro la tunica che si è svanita. Sì, dai, facciamo che ho fatto così. Così è svanito il doppio ed è rimasta solo la tunica. E a un certo punto sentite tipo: non vi concentrate. Sentite una voce che vi rimbomba nella testa, che in realtà è il mio ghost sound di livello, incantesimo di livello 0. Concentratevi su quello di destra. Usate la vostra forza. Ma così, ok. Pensate che sia lo spirito di Avram che vi vuole bene. È due. Dall'oltretomba. Possiamo scrivere a sinistra o a destra? No. Allora, è uguale. Picchia due. Ok. Tu chi sei, tra l'altro? D. D. Dio. Devi mettere in giro, penso. Funziona. Spera che faccio il tipo basso. Ah, perché adesso tu sai questa cosa. Eh sì. E poi so che sei morto. Cioè, per me sei morto, quindi non devo neanche pensare. Ho recuperato che, i key points, io, no? Sì, penso sia fullato. Invece che Kill Bill sa il golem. Ah, diventa TPF e aggiungi TPF nuovi, l'hai fatto. Quanto sei PF? Quanto prendi di dado? Costituzione più 2. Sono 4,5 più 2, 6,5. C'era... Ah, no, adesso... Sì, c'è l'incremento? Sì, c'è l'incremento. È round up. Round up. Quindi no, sei. Non questa. No, è classe preferita? 8. 8, bravo. 8 più 8 PF. Quindi metà più 8. Cos'è questo centesimo che dicevi tu prima? No, metà, devi dire. 186 diviso 2? 193. Come si chiama? Magnificent Mason. 93. La villa 101. Bellissima, è pandimensionale. No, c'è un botto di trasgravo, non ho capito, forse intendevo. Io se vado in ira 152, se no 116. Ma sono stato basso perché ho dato poco la situazione. Cioè, tu sei riuscito al CTPF? Poco cioè, sono fatto 100... proprio un po' debole di costruzione a 102. Brava. Ah, ho fatto switch it. Ah, che figo, veramente? Ok, no, riprendisi questo. Sono tipato da quello. Non mi ricordo mai. Io. Allora, dai, iniziativa, ma... ragazzi. Direi, sono immune alla magia. Che... Ah, sono immune a qualsiasi cosa. Quindi, se sono solo 9. 7 più 18. Davide. Cazzo tuoi. Hai voluto 25. Prendere quello lì e non ti prendi Haste. Beh, parola tecnica che usava Simone, ovvero sommo il totale e poi sottrago. È una bella tecnica o no? Eh sì. Cos'è? Che ho notato che lui l'altra volta segnava il totale e sottraeva quanto vi toglievate. Ah, ci sta. E tu cosa fai invece? Io sommo i danni e poi dopo un po' controllo se è morto. Vabbè, ma i miei ogni tanto non morivano, non so se te ne sei accorto. Nonostante i danni segnati c'era qualche danno che veniva assorbito. No, me ne sono accorto. Ok, a iniziativa io non l'ho tirato. Non ho più un BAB più 2 danni. Solo quanto è fatto di 19, 25. Quanto sono di base? 6. Bella. Che dicevo prima io? Sì, io ho fatto 20, sono 5. Sì, vai prima tu. Spero che non siano attacchi. Penso che siano quelli. Ma se no non mi piacerebbero. Le reaction no, sono infinite. No, vabbè, c'è un limite di volte. Dobbiamo dividerci. C'è un problema. Ma perché vi dovete dividere? Basta, picchiamo uno, il due. Non è stato chiaro, B1. Ho intelligenza 8, sto guardando. Ragazzi, iniziativa? 26. Io 19. 18. Non l'avete detta finora. Veramente l'abbiamo detta. Vabbè, in ordine, parti tu. È ovvio che se ognuno la dice cosa sta sovrapposto l'uno all'altro. 18, maestro, 18. 19 io. Santo cielo. 26. Un attimo, non so così. Devo chiamare anche il vostro nome tra quelli segnati. 26. 25. O fai come lui, che ero sempre ratto o topo. Obi-Wan 25. Agisco prima io perché ho più 6. Perché hai? Più 6 è lui. Però oggi c'è prima ancora lì. Sì. Sì. A meno che non possa. O magari farlo. Prima ancora questi due qua. O magari prima ancora loro. In effetti. No, perché sono. Ma scusa, ma noi ci stiamo avvicinando quindi a questi due qua. Noi siamo fermi, sì. In realtà. Dobbiamo entrare. È una piramide? Ma scusa, sì. Ma io li colpisco da più lontano. Non vale niente. Puoi stare lontano, proprio da lì. Sì, okay. Però dico a 100 metri io li colpisco. Questi qua sembrano. A 100 metri. 100 feet, scusa. Non ce l'ho. È tanto. Occhi di dungeon può essere utile. Con le conoscenze dungeon posso sapere se sono. E con un key point 200. Ah, freddo, danni da freddo, roba del genere. Cecchino. Cosa fai? Fa una po' di conoscenze per vedere cosa siamo. Come 10 lucine. 20, grande. 31. Ok, allora sai che sono immune alla magia. Sai che sono immune alla magia. Eh sì, essendo dei golem, tra l'altro è una cosa abbastanza risaputa che i golem di ferro sono immuni alla magia, però sai che sono particolarmente vulnerabili a magie di elettricità che spesso li rallentano. Oh, cioè magie di elettricità li rallentano ma non hanno altri effetti. Potresti anche giusto? Cioè, cercare di capire cosa è Danilo. A... magie di elettricità li rallentano. Poi conoscenze, cioè non gli fanno danno, ad esempio, no, infatti, gli fanno danno. Shocking Grasp. Ma posso sapere cosa ti è successo? O io penso per ora suspense cinematografica. Beh, no, sapienza magica, dire, intendo. Sapienza magica per capire che incantesimo ha usato. Sai anche che se poi dovessi usare un incantesimo di fuoco, non vedo perché dovresti. diciamo che questo annulla l'effetto di rallentamento del tiro. Visto che hai fatto un tiro molto alto, posso dire. Va bene. E che sono, vabbè, sono vulnerabili a incantesimi che hanno a che vedere con la ruggine. Con la ruggine? Che incantesimi? Tipo uno in tutto il gioco. Che è contro il monster o Rusting Gas, aspetta, sono queste okay. Due cose che possono fare effetti di ruggine. Quindi in realtà io vado di scimitarre e faccio Shocking Grass. Sì, direi dato che Lodo, ma avete preso questo qua. Ah, mi sa che ti perderai Haste perché sarai troppo lontana, probabilmente. Se no, proprio io gli ho detto: scusami, se faccio una sapienza magica, cerco di usare. Fammi un bel Haste. Fammi un bel Haste. Sì, lo faccio. Allora, cosa fai? Volevo usare la cimitarra a fare. Cosa fa? Più uno, più uno. Che è che segnate voi, scusate. Su chi cari? Cioè, io pensavo che fosse di essere più comoda su quello. Perché non ci arrivo. Ma cosa ha detto? Vabbè, destra. E tu state su quello di destra. Che è? Ho capito. Due. Alla sua due. Destra, quindi l'altro due. A loro destra, quindi due. C'è lui che è caldo? Non credo di arrivarci a caricarlo. Cioè. Ragazzi, scusate, ma io mi confondo. Sono sì. Non ci arrivi caricando, guarda, sei sicura? Sì. Scusa. Uno, due. Sì, no. Ce la faccio. Sì. Ho contato male. Devi comprare dei... Sì, devo contare il doppio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sì, ce la faccio. Sì, certo. Aggiungevo più. Tanto essendo che siamo in un deserto avete molto spesso queste linee di carica molto facili. Eh sì, ma perché non conti la sabbia che non c'è stata. Però cioè. Uso il Piranha Strike, quello intendo. Scusami, Shocking Grasp. Fai prima il colpo. Quale colpo fai prima? Stai facendo Shocking Grasp o un colpo normale? Ok. Scusami, se manchi, carica, può caricare anche qua, giusto? No, se... Ah, sì, può caricare 16 anche... 16 più 6. 16 è minaccia di critico? No, sì. Anche 6. Qua, sì. Ah. Tu sei sul dado. Se preferisci, può stare 21, anche giusto? No, 22. 6, 22. 6 più? Sì. 22. Dai, segnalo. Mancato. No, scusami, c'è il più 2 di carica. Cioè, no, il più 2 hai danni. Ok. Secondo attacco. Ah, ho provato l'altra volta, no? Giusto. No, come sarà sia al colpire che ai danni? Non mi ricordo già più. La carica, no? Tiro per colpire. Se non sbaglio, sì, Tiro per colpire. Non sto riguardo. 20, quindi 24. Lui ieri, l'altra volta, l'ha fatto anche ai danni. No. 24 è comunque mancato. Ok, secondo attacco. No, è caricato. Diciamo. No. Non benissimo. Okay. Lui è mancato così con i primi attacchi. Ma no, ma come? Uffa. Ah, tra l'altro, non potevi usare. Lo shocking grasp, in effetti, cioè, ma se era sulla... normale. Ah, quindi. No, quindi era touch. Ma scusa, ma vai e fai lo shocking grasp anziché attaccare. Ho fatto touch per forza, se no non potevi farlo per scimitare. Sì. Cioè, non so se qualcuno ha cambiato in azione. Sì, no, scusa, non so. Cioè, no, vabbè, non neanche me. Cosa che fate? Non potevi fare questa cosa perché quella roba lì. Fa... touch. Ah, no, per farlo per la scimitare, cazzata. Potevi fare, quindi ormai l'hai fatto per la scimitare. Ok. Sì, perché è un'altra abilità, è spell strike. Quella ma non può fare in una carica, non può incanalare lo spell. Come no? Poi. Ah, giusto, perché un'azione di run completo. È vero, non si può fare in carica. Dai, hai fatto un attacco fallito. Hai fatto un attacco normale, basta. Ma diciamo che non è stato... Vai, prossimo. No, no, so la prossima volta cosa lo shopping. Sì, sì, fa lo touch, fa così le... È la prossima volta. Aspetta, che vado a segnare le iniziative. Ma quindi ancora ho shocking grabs? Cioè, nel senso... O l'ho usato. Tu, Baka, hai fatto qui 25. Sì. Ha segnato invertite quelle di Baka e Khan. Mm. Mi hai fatto 19, invece. Sì. Hai fatto un bel 20. Questo pensa che stato qua sapevo che l'ho preso. Posso? Stavo cercando. Sì, un attimo che l'ho preso in mano, mi è caduto, è uscito 20, cioè non l'ho e l'hai preso, è mio. Mio. Poi è tutto bello rosso fuoco, vedi qua sono di fuoco. Vai pure così che si scelgo i dati. Allora so con, la mia, con la mia familiar action faccio haste su tutti. Okay. E praticamente vi prendo tutti perché dovete essere distanti non più di 30 piedi l'uno dall'altro, ma ci siete. E lei? Tu devi tirare un tiro salvezza. Lei e... a pelo, Perché io, no? 30 piedi? Perché non ho tiro salvezza io? Uno. Scusa, Uno, due, tre. Ah, è vero. 4, 5, 6. Ah, per uno. No, no, ah. Sono in diagonale. Esatto. In diagonale magari un po' uno, due, tre, 4, 5, 6. Al pelo. Al pelissimo. Perché lo fanno DPS io? Grazie. No, infatti non. Cosa ci dai? Ah, non è in ira. È vero, scusa. Non più. Bello, no? Allora vi sentite tutti infusi dalla velocità che vi infondeva come quando combattevate al fianco di Avram e capite che è la forza che scorre dentro. La forza scorre in noi. Scorre così. Potete voi, con la mia swift action mi teletrasporto un po' più in alto di 6 piedi. Di 6 quadretti. In modo da essere fuori portata. Anzi no, di 4 quadretti un po' più, una freccia, un po' più in su. Okay. E comincio a sammonare perché mi sposto un po' più avanti di un paio di quadretti e salgo solo di 4. No, già qua meno ti spezzerebbe le gambe. Segna la freccia. Ah, ho sbagliato? Sì. Di 1. E segno la freccia. Ancora. No. Ok, adesso comincio a sammonare. Ok. Ripeti cosa fai, scusa. Ho un attacco in più? Un attacco in più. Un più 1 ai tiri per colpire. Più uno alla, alla CA e più uno ai reflex sales. Entuniga, carico. Strano, Bello diretto, così mi piace. Chi? 2. Per tu? Sì, grazie. Primo attacco con Ace. No, no, lì si è caricato. E no. No, perché non puoi prendere... Devi prendere... No. L'altro qua. Questo qui? Ah, no, è vero, sono al contrario. La tra. Vabbè. Infatti. Banca. 14 più 25 colpito. Più 1. Speriamo colpito, dai. Sono 14, poi, cioè, hai detto 6 per non colpire. 31 danni. Aspetta che, dai, la giocaccia qua, quindi sono... e non mi ricordo quanto hanno. No, come facevi a sottrarre a mente? Tu sei fuori. Cazzo, c'è da la damage reduction, basta aggiungere, cioè fai la somma e poi aggiungi più x, cioè la no ma dico dai PF a sottrarre a mente, cioè gli altri. No, però calcolatrice col telefono. Ah, ok, c'è con la calcolatrice. Ah, io non ci ho sbatto. Secondo attacco al massimo. Non era il mio metodo. Secondo attacco al massimo del bonus. 20, minaccia di qui. Ah. Non so se lo becco. 8, quindi sono 25 e 8. Il primo al massimo del bonus. Vabbè, sì, 25 e 8. Confermato. Ok. Bisogna un altro di 4. Altri due di 4. Non so come vedi delle somme. Ah, perché. In che senso delle somme? Cos'era quel più 8 che non sapevi te? Che, vabbè, eh no, al di là dove avevi l'8. Tu sembra invisibile prima. Dove... Sì, mm-hmm. Allora sono. Ma capiamo in qualche modo che ci sei perché 10 a voi 11, la 11 più 28 per 2. Sto dicendo 28 per 2 è 56. Beh, 56 più 11, 67 danni. Secondo attacco 16, col 16. Dai, che lo porta a casa un altro critico. L'ho mancato questo. Ti fatto uno? No, ho fatto 4, 20, 21 più 2 di carica 23. Quindi questo me l'avevo mancato. Ultimo attacco. Prima di danni erano 67. 67, sì. Ultimo attacco. Hai contato Ace, scusa. Sì, sì. Ultimo attacco. Mi ero mancato anche sto giro. Sono 23 più 2 di carica 25 più 1 di Ace 26. Mancato. Ok. Basta, temo di aver finito. Cazzo, non mi sono visto i costruttori iniziali. Se quello è una magia, vabbè. Magari sarà probabilmente. No, i costruttori non sono più immuni a quelli che danno, cioè non ricordo più. No. No, per, no, perché per lei. Vabbè. Da culo, magari due volte. Ok, ho dito 4. Ok, tocca a Istra. Che non vedendo bene due perché c'è davanti Baka. Inizia ad attaccare uno, ignorando il ghost hound. Oh. Anzi, si avanza di. Ah no, perché avanza di un metro e mezzo qua. Ok, diagonale? No, perché qua poi copre la vista K, okay. Quindi qua. No, me la copre più qua la vista. Qua me la copre più. Perché tu vuoi colpire due? Eh sì. Ma comunque dovrai spostarti. Faccio un passo a metro e mezzo qua, lo vedo due. Quindi lo disegno? Io c'ho i miei. Sì, sì. Cioè, allora, per me basta anche che lo becco un pochino. Allora sì, allora fallo andare davanti a K. Allora, tu gli dici vai verso di là così poi accedo meglio. Così, esatto. Posso mettere in mezzo anche diagonale, posso farlo? Sì. Comunque non è facile colpire. Perché con 12 sull'ultimo attacco non ho preso. Capito, ha fatto 23. No, 26. 23, sì. Tipo di carica. Ha fatto 23. Ha fatto 26. Tutto, 26. 26. 26. No. Non è facile colpire. Beh. È anche difficilissimo. Secondo me era 28. Diciamo. All'ultimo attacco l'hai mancato. E quindi? Non è un buon motivo per mancarlo sull'ultimo attacco, no? Se ce l'ha andati, bisogna sprecarli. Non so. Poi tanto 14, forse un 15, no? È un bel critico anche lì. E allora. Prima. Manca. Quanta strada bisogna fare mio? Caricare, tu lo sai. Manca. Avevi due quadretti. Così qua. Sì, sì, deve essere tipo. E manca. Uno, sì. Praticamente. Vorrà dire che dovrò mettere più precisione, dice, dopo aver mancato i primi tre colpi. Perché ho dato tipo degli. Chissà perché ho pensato che dopo farà baboom. Adesso non so usare meglio di me degli aim. Ok. E dopo a Istral tocca a. Can. Mi sposto vicino a Istra. Ma lì ci vedi se ti sposti lì? Sì, certo. Scusami, la visuale, no, per colpire. Prendi l'angolo. Se prendi l'angolo più esterno, presto sì. Sì, sì. Per qua. Allora, perché lui ne basta uno, via. Cioè, non è perché da 20 basta che ci sia una linea sola. Quindi, va bene. Esatto. Vai. E provo a colpire due. Uso un key point. Dice 27, 28 anzi. Colpito. Hai anche i skin più, no? Sì, sì, già ho preso. 20 danni. 35 tiro per colpire. Sì. Colpito. E... diviso l'8 con quel dado. È un bel dado. Già buono. È un bel dado. Dico, quanti faccia? Altri 20. Altri 20. A 8 faccio da 8. Hai 20 danni. Quindi, 33. Colpito? 33 colpito. Sta tirando un dado sacco quel ragazzo. Non lo sa. 4 più 12. 16 danni. Questo è un momento di 17. Altri 33. Ah no, mica la da maggiore d'accio. Però devo contare alla fine perché è classe 18. Quindi ha fatto 15. Ah, che figo. E come cazzo fai però, scusa, se muore nel frattempo, roba del genere? Cioè, se dovrebbe morire, tipo. Ah. Se dovesse. Ah, perché forse... Fa niente. È un ingegnere. Non può capire la lingua. Capisce solo l'inglese. Neanche. Scusa, non si conta che... dai, niente, non puoi fare... Guarda che si trova i PF dimezzati. Due persone. Dai! Dai, giochiamoti. Dai, a chi tocca. Anziché fare minacce. Devo vedere Cluster Shot cosa dice. Cioè, se devi dichiarare di usarlo, devi per forza da tutti gli attacchi su di uno. Secondo me devi usare tutti gli attacchi su uno. Anche secondo me. Come un attacco solo. Pam. Sì, dai, è così. Quindi, niente. Ok, vai avanti. Quindi, 33, preso. Sono 15 danni. Poi adesso inizia a calare. Dico Cluster Shot. Col BB. Straforte. Avrei fatto 0 danni con questo attacco. 17 danni. 30. 17. Capito? Sta tirando dal 13 al 17, ma quel dato lì. Cioè, c'ha 10 di damage reduction. 19. Ah! 12 damage reduction. Vedete che io... No, io c'ho quella roba lì che lo conta solo alla fine, a damage reduction. Sì, certo. Ah. C'è cosa 19? I danni. Si becca. Beh, oh. Questo 16 mi sa che non l'ho preso. Facciamo... 16 totale, no. Sì, facciamo l'ultimo. 14, 16. La mitragliata 22 mancato, ho finito e okay, sto tranquillo. Aspetta, guarda, più. Facciamo sta somma, ah, centinaio forse, no, almeno, cioè quelli che ho visto, sai quanti sono arrivati, e hai fatto 20 danni, circa massimo 20 danni, quanti danni fai? 7 l'ho preso 5 volte, l'hai preso 5 volte, 70 danni, 70 circa. No, non di più. Scusami, No, non. Io sono un di 8 più 12. Ah, ok. Beh, ma secondo me gli hai fatto una 60 di danni. Sì, sì. Sì, 60 di... Anche di più. Di più. Anche di questo ti dà bene. Questo, i miei danni sono molto bravi. Sembrati da dire. Guarda, questo dado qua. Sì, poi okay. Chiedi a Danilo perché gli piace questa cosa. Muore sotto la raffica di colpi. Muore. Veramente? Sì. Non ci sono più gli affari raddoppiati, ragazzi. No. Yeah. Cancella due. Non c'è più due. Tu mi sei beccato un critico, cioè due attacchi. Ma dove? Ma io. È sempre così. Quando inizia a diventare divertente, muoiono. Neanche un come and get me. Non fatto. È felice, cioè... Davide, perché significa che non lo distruggerà da solo l'uno come aveva programmato. No, significa. Lui stava già sapolando su. Significa che ho sprecato un Summon Monster del 7 così. Vabbè, una strapippa. Damasco. Dura un po', effettivamente dura un paio di minuti. Magari dentro. Vabbè, è punto uno. Vedete con i mostri. Dura 2 minuti. Quant'è, eh, quanto... Venite, presto! Quanti mostri! Ora con i dinosauri! Potevi uccidere adesso che ho dei dinosauri. Da 6 quadretti. Da 2. No, sì, da 2. Come si usa quel talento? Come si chiama quel talento che prende la damage reduction solo alla fine? Clustered shot. Ma solo i quelli che non si può prendere, come c'è un talento simile per i melee. Ovviamente no. Fino a qua sono 6 quadretti, lo prendo? Quindi no, devi fare un passo di 3 e mezzo. Vabbè, passo di 3 e mezzo, su via. Ti costa. Forse era più conveniente Clustered shot che improve the 2 con fighting. Vabbè, ormai. No. Cosa fa improve 2? Fa un attacco in più. Beh. Io l'ho preso. Paragonale. Sì, cioè è automatico nella Flurry of Blow. Allora, no, tu faccio il 2 con fighting improved, ovviamente. 15 più 9, i 2 con fighting improved. Con Deadly Emo, sì. Con Deadly Emo, ovviamente. Okay. Lo posso tenere questo qua dopo? Per spiantare la casa, sì. Dici? Sì. 24. E touch? Touch, sì. Quindi l'ho preso. Dai, dimmi solo che non tiri uno. No, aspetta, con l'ultimo attacco di Invul. Io non avevo 4 di 6, giusto? Era sempre 3 di 6? Non era aumentato? No, no, sempre 3 di 6. Tu Weapon Fighting? No. Vabbè, insomma, non c'è scritto niente. Dov'è? No, non faccio uno. Cioè, ho fatto un 1, ma... No, no tio, hai danni. Ma il tio per colpire. Non per colpire, ce l'ho solo per danni. Ah, no, no, no. 3, 4, 5, 10, 11... 11, no, 14, no. 11 più... Più 16, perché sono dentro, giusto? Sì. Sì. Quindi più 16. 11 più 16? 27. 27. Ok, ne faccio un altro. Io vado avanti, 17, sì, l'ho preso. Ah, che bello, vado avanti. Allora, 8, 6, 11 più 8, 19. Bravo. 19, no, più 16. Più 16. No, no, sono già i danni. Ti ho per colpire, ha fatto 17. 19 più 16, Dodò. Che fa? Lo fai tu. Sei bravo. 20 naturale! Minaccia di punti. E anche questo è molto. No, dai. E no, in 7. Beh. Più... Dov'è? Non è, 25. Non dice neanche. No, perché è 17. No, perché voi non sapete quanto è che la pistola, forse qualcuno su... Quant'è che? No, quanto è il multiplicato? Per 4. Per 4? Per 4. Ma ho fatto 17. Per quello che... Ma è touch. No, non l'ha... Ah, è vero, sono touch. Sì, beat. Quindi... L'ho confermato, no? Sì. Ho detto di non dirmi solo se ti dico tranne l'ultimo attacco. Vabbè, ho fatto 17. Sì, sì, sì, è confermato. Che palle, l'incantesimo di settimo sprecato. Cioè, devo completamente rinunciare. Ma che ti ha fatto poi per 4? Se... No, eh no, ritirare 4 volte. 16. Ah, come 16? 12. 16, scusate. 21. 21, ritirali. Ok, colpo di pistola colpisce il golem nell'occhio. È morto? No, no. Aspetta. Ma che peccato. Vediamo quanti danni gli fai. 21 più 21 più 31, 34. I dadi da 6 non devi tirare due volte, eh? Cioè non devi moltiplicare i dadi da 6. Come no? No. Solo il di solo il dado e i fissi. Ah, ok, quindi tieni quell'uno lì e basta. No, questo qua è fisso. No, i 3 di 6 non sono fissi. Tanto 3 di 6. I fissi sono in bonus numerico, cioè tipo più 7. Se e quindi dado... faccio più 15 3 volte. Sono 4 di 8 più cos'è questo? 15? 15. 15 per 4, 60. 4 di 8 più 60 più 3 di 6. Cosa avevo fatto prima? 21, ma non mi ricordo cos'era il di 8. Fa niente, 21 è giusto, perché una volta ti sì, ma c'era un di 8 in mezzo a quei 21. Sì, è giusto. Ma una volta giusto. 3 di 6 li devo tirare, giusto? Sì, sì. E avevo fatto 21. E adesso devi tirare. Adesso devi tirare solo 3 volte il di 8. Esatto. Più 15. Più 60. Più 60. Vabbè, insomma. 21, 28. 28, via. 35, brava. E 41. 41 e 60, 101. È morto. Cadavere. Quasi. No, aspetta, forse sì. Vabbè, devo farne ancora uno. No, devo farne ancora due. Una battaglia di un round. Cioè, te l'ho detto, te l'ho chiesto apposta. Ci sono i guardiani della galassia lì, mi aspetto che duri due round, tre round. Ma ancora vivo. Vai che... 18? Sì. Infatti ho detto, ma se sei che è uguale il cieco? Sì, sì. Guarda qui cosa c'è. 12. Come fatti a vestiti? Cioè, questi qua sono 6 perenni. C'è una persona in più che fa 100 danni a round. Questi due dadi qua sono usciti 4 volte 6 di fila. 23. Bene. 23 più 16, 30. 39. 39 danni? Sì. Morto. No! No, che cazzo, non ho. Aspetta, ma io lì. La Dava Redaction l'hai contata? Sì, quindi io lì. Ascolti questi dati, non ti posso usare. No, aspetta, ma io non li ho messi i grid point. Ho fatto solo 6 con questi. Ma quando mi dai, è figa, no? Ma non può durare un round, una battaglia CR15. Io ho giocato, ti sembra che hai fatto qualcosa. No, non è colpa tua. Ma che cazzo vuoi, cioè, silenzio. Non vi faccio gli ankylosauri, gli ankylosauri arrivano. No, non sono ankylosauri, perché era ancora più potente, quindi arrivano i dire tiger. Ah, arrivano le dire tiger e fanno guarda intorno e fanno scusate ragazzi. Attaccano te. Esatto. Smisso l'invisibilità, proprio non ce la fate a lasciare un po' di spazio agli altri, eh. Ma tu non eri morto. Vado dalle era solo un'illusione. Vado dalle tigre e gli faccio due carezzine per consolarle. Mori. La fame della Madonna, stai qui. Le tengo a digiuno da 10 mesi. Da 3 giorni senza mangiare. Le se uccidiamo i dettagli, uccidiamo i piedi, dai. No, ovviamente. No, se creature sono malate non danno piede. Se, visto che durano. Visto che è il primo round e durano 18 round, 20 round. Ma 4 minuti. Le tiri. Ma l'ho detto. Tieni. No, scusa, poi 2 minuti. Ma andrà dentro. Corriamo dentro. Ok, correte dentro. Ah, sì, aspetta, tanto però. Aspetta, non mi sembra un'ottima idea. No, anche perché poi vuol dire che spiega un diga. No, infatti io vi. Cioè, qua c'è buio, velocemente, no? Cosa vediamo dentro? Aspetta, che cos'è questa cosa che vediamo? È una. Le mandorle da Ice Tiger. Avanti. Sono tue. Aspetta un attimo, prima. Appena finisco. Non ti possono. Posso lanciare? E quindi non mi capiscono? No. Cioè, nel senso, capiscono quello dei comandi, perché sono sammolato, certo. Ma non ti sanno dire quello che vedono. Cioè. No, beh, ovvio, voglio solo vedere se vengono sgozzate. Ah, ok. Ma io posso vedere dentro. Vedi che... Scusa, mentre... Ma cosa vediamo noi qua dentro? Ah, da fuori vedete... Non è buio, ma comunque non riuscite a vedere... È un'entrata con una porta... Cioè, non c'è una porta o... Cioè, le Dire Tiger corrono, vedete che... Corrono nelle varie direzioni, ma sembra rimanere ferme sulla porta. La porta come è fatta? Cioè, scusa, ripeti? È una porta, un'entrata di pietra. No, è tutto di vetro. Cioè, in che senso restano ferme? Loro corrono. Ah, videogioco, beta testing. È come se scivolassero sul vetro, praticamente. Cioè, e restano ferme lì dove sono. È come in Pokémon avanzare. Quando corri verso il muro. Sì, esatto. Che figo. Ma le vedo scivolare sul vetro loro come se non si accorgessero? No, è come se loro non si accorgessero. Posso fare una perception? Faccio un fisco? Anch'io faccio una perception. Fare. Cioè, loro si accorgono che la porta resta sempre qui e sono stupiti della cosa. Ah, ovviamente. Certo. Però, non, cioè, non, per loro è come se stessero spostando, anche per voi. 15 cioè. Più 13. 15 più 13. 9 più 18, 27. 14 più 19, non so neanche di farlo. Cos'è che volete capire, cioè... Aspetta, perché aspetta, succede questa cosa? Deve essere castato per poter usare. No, non puoi capirlo vedendo e basta. Si usa allora sapienza magica. Con la sapienza potresti capire che ho un effetto di trasmutazione o di illusione. Ma io non tiro una spada. Posso provare a fare un disbelieve interagendo? Interagirci. Cos'è? Interagendo non posso impormi il problema che ho. Di capire cos'è, secondo me, per poter. Già ho pensato, no, secondo me di capire cos'è. Per mi avvicino. Per poterlo disbeliffare, fare una prova di disbelieve. Cioè. Mi avvicino l'entrata. Okay. Anch'io mi avvicino. Entrate. Sì. Io sto un po' dietro. I Tiger stanno correndo a vuoto. Con cautela dietro. Io sto un po' dietro e. Prova solo a toccare con il dito. Esatto, gli tiro una spadata. Ah, okay. Dai, il Tiger. No, no. Dai, il Tiger. Poverine. Ma è tutto. Cioè, WWF. Esatto. Alla porta, che mi frega te? Cioè, a quello che serve davanti. Alla porta, ma la porta cioè, non è che è aperta. Il buco, al buco. Cosa succede? Sì, prova a tirare una spadata e vedere cosa succede. Cioè il colpo qui, come se fosse entrata normale. È un posto dove non possono entrare le summons. No. Ok, peccato. Non le tigri. Le anzi, tigri è messo in crisi facendo entrare le summons, ma vabbè. Sollevo una Dire Tiger e la butto dentro. Essere voi a Danilo, sollevo una tigre e la butto dentro. Ah, però così non è ovviamente. Sollevo una tigre e la butto dentro. Cioè, se non era Danilo. Sollevo una tigre e la butto dentro. Butti dentro dove? C'è una porta vuota, la butto dentro. Cosa fa? Rimbalza fuori. Ma è già dentro. Ah. Ma io ho capito no, che non ho capito, scusa, no, scusa, io ho capito che sono sull'uscio e slittano. Ah, no, sono entrate, voglio, cioè, dentro c'è un corridoio che fa così e loro cercano di avanzare lungo il corridoio. Sì. A destra e sinistra. Ah, forse non era chiaro. Cioè, io penso no, esatto, spiegami un attimo dove è il corridoio, cosa succede. Di barriera, ho detto, io le butto dentro, vediamo cosa. Poi un po' indietro. Sono entrate, ma cioè sì, senso... forse non era chiaro, scusate. Ok, ho capito. Allora, tipo questa è la porta. No. Che vediamo noi, cioè, sì, esatto. L'avevi disegnato. Le tigri sono qua. Dentro. Quindi sono entrate. Sono entrate. Cerca di andare in questa direzione. Alcune. Cerca di andare in questa direzione, ma restano. Slittano. Ma continuano a slittare. Ho capito. Ma che senso? Cavolo. Ho capito che bisogna volare per forza. Vediamo cioè, qualcosa sul pavimento. Camminare. Il pavimento come è fatto? È normale come. Ma perché slittano? Perché non riescono ad avanzare? Allora io entro. Entri con le tigri. Slitti anche tu, poi non puoi più uscire, mongolo. Cosa fai? entri, fai un passo. Ma io ho una corda comunque. No, esatto, aspetta. Perché io sono sul confine. Guardo pavimento. Ma sì, faccio un passo. Strano. Facci un passo dentro, dai, io c'ho una corda. Ma normalissimo. Nel caso, eh. Facci un passo morto. Esatto, qui anche muoio. Prendi questa corda. Ma sì, cosa vuoi che succeda? Anzi, ti annodi. Ti non annodi, la prima volta. Ti annodi la corda. Ti continuano a correre nel frattempo. No? Ma sì, perché certo. Non le chiamo al finocchio, scusate, ce l'ho butto qua dentro. Ma stai scherzando? Ma che cazzo vuoi? Ma ci tu in quella piramide di vetro assassina che fa slittare le cose. Ok, ok, io sono d'accordo con te, buttiamolo dentro. Buttiamo dentro il finocchio. Le chiamo e le buttiamo. Ma io non sono finocchio. Esatto. Molto aperto. Sì, l'uomo che porta il perizoma. È molto dubbia, sì, esatto. La cosa, però... Ma no, anche io ho avuto l'idea di volare, però non so. Però non basta per ma il punto è che noi non possiamo legarci. Va bene, i tigri ormai sono andati. Vabbè, mi leggo una corda e faccio un passo dentro. Fai un passo dentro, i tigri ci sono ancora, direi di sì. Passati meno di 2001. Sì. Dai, ancora per un po' ci sono. Un passo fa. Fai un passo, ok. Allora vieni, sei legato con la corda. Sì, sì. Vieni sbalzato indietro nella direzione opposta rispetto a quella a cui stavano andando le tigri. Cioè, vedi il pavimento muove sotto di te e le tigri vanno in lontananza e arrivi dall'altra parte della... Quindi lì, cioè, se loro vanno di qua... Arrivi lontano e continui a allontanarti finché non arrivi a delle scale. Ok, la corda? Quanto... La corda, vabbè, non so quanto era lunga, ma cioè, penso che abbia... Cioè, nel senso che non... Non è, se voi non avete apposto resistenza, no. Avete lasciato scorrere la corda. Sì, l'abbiamo lasciato. Qualcuno avrebbe mandato la corda, spiego. Sì, certo. Non è detto, no? E tu l'hai fatta andare? Lui. Sì. Anzi, due. Questo succede finché arrivi delle scale. Cioè, fammi capire, loro, le tigri erano qua. Cioè, loro stanno correndo così, come lui fa un passo dentro, voi volete fium, andare di qua. E le tigri restano lì. Io corro dai romano a prendere la corda. Cos'è la grotta ghiacciata di Pokémon? Esatto. Fuori perception. Arrivo io. Cosa vedi? Baca! Poi il perception, è entrato un bel tre, non vedo un cazzo. Qui 18 in tutto. Cosa le scale visto? Proseguono, cioè su, cioè in pratica il corridoio era circolare. Mm-hmm. Cioè, nel senso, presumi sia così anche dall'altro lato. Ok. Tu sei stato sbalzato di qua, no? Ha fatto il giro. Ma proprio ha fatto tutto il giro. È arrivato fino in fondo. Ed è arrivato dove ci sono delle scale che vanno su sempre a giro. Sembra vanno su sempre a giro per la... Perché le tigri non hanno subito la stessa quanto sorte? Sono distanti le persone, cioè l'entrata dove sono io? Manca. Tu e sono spariziato a vista perché hai fatto il giro. Certo, ma posso presumere. Cioè, comunque il semiperimetro della piramide non era tanto grande. Ok. Legatevi a una corda e li trascino tutti qua. Penso che non ce ne sia bisogno. Beh, direi che le tigri scompaiono. Sì, tipo. Va bene. No, peccato che mai hai sbalzato la parte a posto verso le tigri. Ma è... Magari possiamo entrare dalla stessa parte, esattamente nello stesso punto in cui è entrato lui. Sì, ma legatevi la corda al corpo, se mitigo io tutti quanti, sì, non è problema. La stessa sorte. Beh, ragazzi, legatevi la corda lì, se no è un macello, perché se buttate dall'altra parte... Possiamo legare la corda a qualcosa fuori? Tipo al cadavere di un golem? Possiamo lottare i golem? No, c'hanno... I golem pesano un botto, quindi non legare... niente con loro. Non lo so quanto pesa. Possiamo legare la corda al cadavere di uno dei golem a un tavolo? L'estremità? Sì, volendo. Diciamo così. Ok. Legata quindi... alla vita. Quindi no, un'estremità è legata a lui, un'estremità è legata tutti ai gol. Fai i nodi presi. Seguiamo la corda. Sì, figurati, verremo strappati sicuramente. Ma esatto, ma legatevela in vita, esatto, scusate, secondo me è meglio se ce la leghiamo. Sì, però come facciamo? E come facciamo? La legata in uno, no? Ce la passiamo. Dovresti fare una roba di questo tipo, no? Che ti passa qua, sì. Esce dall'altro, senza legarla, cioè che poi puoi scorrere. No, so se mi sono spiegato. Sì, ho capito. Ma sì, ma c'è il scusami, problema è che Davide, se tu la ti fai un nodo, alta, non c'abbiamo uno scrittore. Uccidi, ti spezza l'osso del... Non ti spezza no. L'osso del sale. No, scusami, ti... Passi la corda così, fai il nodo, poi c'è con quel cappio. Come fai a muoverti? Tu non ti muovi, ti trascino. Ah, quello è fatto, esatto. Ah, ci trascina tutti lui? Sì. No, tre... allora non possiamo attaccarla fuori dal golem, perché non può trascinare anche il golem. No, a quel punto non attacchiamo... Okay. Allora, posso? Prima bene. Tutti che vengono storpiati da queste morte potenti. Non so, ho un po' paura di quanto possa ma, essere allora, però almeno saremo tutti assieme. Vabbè, quanto sono distanti le pareti? Cioè non è che sono sbattato velocemente precisamente tu comunque ah. No, però sai, mettiamo caso che li buttano un'altra parte, è un problema. Cioè sarà in miniatura sarà tipo così cioè, fai circa 60 around. Ma è tanta la distanza, no? Perché sì, un po' di più. Vabbè, giusto. Ma è tanta sì, la vi siete legati sta corda? Momento! Muovetevi, non c'è tempo per pensare. Aspetta, dai che ho paura del buio. Ma è buio dentro? Ma vedi qualcosa dentro? Sono delle scale. Oh, io me la metto sulle ali. Ma lo sentiamo benissimo. Lo sentiamo benissimo. Lui. Danilo, dentro è buio. In effetti. Grido. Se gridi, sì, dai. C'è bomba. Ancora tutti i nemici. Dentro è buio. Dentro è buio. No, non è buio. Ah, ok. Io proprio guardavo. Non so, ci cioè, vogliamo vogliamo fare così? Ogni tanto il master di Luigi stanno arrivando. Scusa, Danilo, ti dico una cosa, io volo, provo ad entrare. Quanti gol, quanti ha tirato un di 8 per vedere quanti gol in di ferro stanno arrivando. Allora, faccio. Aspetta. Cioè, nel senso, non sei soggetto a nessuno stato strano, devi venire. Allora, trascinaci dentro, cioè, leghiamoci una corda con te, oppure facci fly. Io ho solo un fly preparato. Io ne ho due. Eccomi. Però tu sei personal. Che avevo progettato due. No, la scusa, ma invece di fare un fly, non è che tu puoi volare, prendere qualcuno e portarlo? Ma non pesa niente lui, è difficile. Che non riesco a tirarvi su. Sammo agli angeli che ci sollevano, no? Quanto ho di forza? No. Volendo potrei. Cosa stai guardando? Hai guardato i miei TS? Perché guardi i miei TS? Io posso bellissimi. Fare un fly, però l'altro si deve attaccare perché io. Ragazzi! Ma tu fatti fly, ragazzi. Io mi faccio fly, e però l'altro. Muovetevi! Io mi casto fly, però poi l'altro. No, lo dice il personaggio, altrimenti sarebbe le scale da solo. Vabbè, fate come vi ha detto lui. Vabbè, io casto fly su. Perché avevo pensato di farlo su di lui? Perché poi è attaccata a distanza. Ma io ho meno 4. Ma comunque bisogna arrivare lì adesso. Lo so. Però magari ci potete. Come lui è già lì, certo. Dai, allora facciamo che io provo a raggiungerlo, assieme a magari... Con la corda? E convinco i... come si chiamava? Dai, legatevi voi due alla corda. Infatti, anche almeno due se veniamo... Non puoi, no, verticarmi. Scazzata, no, non esiste. Verticarmi, per non esiste, posta. Non perché? Esiste. Perché? Metagame puro. Falsissimo. Cosa? Silenzio. Verticarmi, ho detto, chiaramente. No, entri lì. Che merda che sei. Perché fai schifo. Come minimo per tirarli dentro in me. Se no non, non sono abbastanza forte. Mi sono dotato. Gli alieni sono. E dai, io sta arrivando un di 20 di gol. Comunque Danilo, a prescindere da tutto questo, secondo dimmi se con te metagame, già prima lo volevo fare, prima che entrassero, dura 10 minuti per livello, fare Keen Edge su di lei. Cos'è Keen Edge? Beh, sono 10 minuti per livello, no. Appunto, per quello diceva. Cos'è che fa? Raddoppia la possibilità di fare critico per lei. Nel suo caso, perché fa 19 20 così. Ok, allora ci leghiamo a sta corda, dai. Io, te e anche... Ma Keen Edge puoi fare. E chiediamo anche a I di legarsi. Projectiles. Come si chiama I? Non le armi, capito? Come si chiama I? Aia. I? Istral. Istral. Io faccio Istral, fly, ho un altro ti leghi con noi? No, potrebbe essere inteso male. E sarà inteso male. Non mi voglio più legare con lui. Scherzate. Sto io in mezzo. Adesso vi lascio 4-3 e vado su quelle scale se non morite. E leghiamoci. Dai, voi mi siamo... siete legati. Sì, io poi se legati. La situazione è precipita vi farò. Io mi faccio... Ma io ho due fai. Quanto hai Simone? 20. No, 18. Che belle domande. Sono già finito i danni. Ok, perché... senti dietro di te, mentre intenta urlare, ma lui ci sta tirando? No, non ancora. Ah, no, voi siete legati adesso. Intenta che no. Inizia a tirare, no? No, infatti non l'abbiamo detto, ah, quindi ha ragione. Cioè, non vi due ore per legarvi una corda. Posso incazzarmi dopo? Okay, con loro? Senti... Ah, infatti però aspetta un attimo. Devo fare un'altra cosa. Ahia, yeah. Io sento male, non so perché. Togli i punti. Ok, mentre... Sì, stai... esatto. No, infatti perché tipo... Erano due nemici. No, aspetta. Come erano due nemici? No, molti di più, quindi almeno uno riesce a beccarlo. Ok, cioè riesce a vederlo, perché ho fatto che si avvicina in stealth, però... Ah, ok. Cioè, se sono tanti, più facile vedere. Dalle scale. Anche per gli altri. Stealth. Sì. Beh, quindi sono entrati in vivo o no? Senti, un rumore, ci, così, no? No, no, sono ragni. Aspetta, se ho sentito il rumore, ho detto che entra in Niga? Beh, si tira iniziativa in quel caso. Ok, no, beh, è attacco grande sorpresa. Se, se no. Vuoi, puoi tanto voltarti e vedere quello sì, che c'è. Sì, mi volto e vedo cosa c'è. Ok, vedi questi grandi No. Grandi meccanici. Siamo già dentro che... Vogliamo. No. Vabbè, no. Sull'uscio comunque. Quali? Madonna, che schifo. Ma quanto è grande? Sono huge. Che cosa? Più grandi dei golem. Io scappo a gambe levate. Ragazzi, abbiamo un problema, muovetevi. Il corridoio è parecchio ampio comunque. Stanno tranquillamente due di loro affiancati. No, due di... Sì, due di loro affiancati. Oppure potrei fare che sono larghi, avere le stesse statistiche. Quindi, Mi viene già. No, tu, comunque, pensa che sono qui da solo con 12.000 ragni. Ma quanta luce c'è? Quanta luce c'è? Due ne vedo perché sono in fila, ma ce ne sono tanti. Dopo quanti sono? A parte che io posso anche non vederlo il mio nemico, in effetti. Qualcuno per caso non ha critico migliorato? Forse tu. Io c'ho il proprio. No, io c'ho due Yugi affiancati e troppo. C'è anche se sono large. Anche senza stesse statistiche perché sono da solo. Il Shape Kine critico. Ok, vedi 5 di loro. Improve, iniziativa. No. Sono 5. Improve critica, cioè. Ragazzi, ragazzi, muovetevi. Tiriamo iniziativa. Io e te, loro entrano dopo a fine battaglia. Ok, e rischio di morire anche alla quarta sessione. È colpa mia se ci avete messo due per entrare in una cazzo. Chi è che ha deciso di entrare qua dentro? Chi è che non ha tirato? Tutti pronti? Chi è che non ha detto io tiro? Colpa tua. No, tutti pronti, cazzo, proprio due ore. Invece. Cioè... Ma andiamo avanti il bago, no, insomma il bug dovrebbe andare avanti. Ma no, ma guarda, scusa. Ma potrebbe andare avanti e morire. Ho fatto 23. Ho 50 proiettili. No, 22. Però qui dice, il cast, ah, nel senso che quando colpisci... Gli faccio il culo a tutti. Ma non è più criticato, ma gli altri 49. Cosa fa Point Blank? Allora sì. Ah, figo. Point Blank Master, cosa faccio? 23 ha fatto, Non mi ricordo. Ok, disciplina tu. Entro in ira. Però sono sopra. Sul soffitto. Sono raggiungibili da me? No. Ah, sono sul soffitto, che fighi. Ma come che fighi? Cioè, alcuni sono sulle pareti. Altri quelli sulle pareti li raggiungo. Cioè, sono a distanza per caricarli? No, per caricarli sicuramente no. Direi di... No, per ora non li raggiungo. Preparo l'azione e aspetto che arrivino. Ok. Picchierò tantissimo, sappilo. Ok, potrei fare una roba strabastarda, ma... Sono quelli dimensionali, no? Vabbè, sei già stato molto diresti. Vabbè, stranamente... Ridendo. Sì, No, non farlo, grazie. Dai, perché... per ora iniziamo soft, perché non sanno quanto sei pericoloso. Non sono pericoloso io. Lui ha fatto, lui ha fatto 320 danni, ti ricordo. Io ho fatti 50. Allora, due di loro, quelli che erano sulle pareti, si avvicinano 5. E iniziano due di loro. Si avvicinano e iniziano a colpirti con le loro chele. Ok, su provano hanno chele. Questi sì. Ma che schifo. Non dimmi che entrano in grappolo anche sti incoglioniti. Sì, con le loro chele. Ecco. No, aspetta, uno con le chele. Mi tiene a 4. Che figata. Madonna. È finito. E la... cioè, ma scusa, non posso essere un cielo più basso dei gole, ma cosa stiamo dicendo? Madonna. Solo che hanno meno no, hanno più PF. Ma cosa sono questi? Aspetta di vedere quello che fanno. Anche questa è una fiaccia molto bella. Indovina su chi la usano. Allora. Palle, le mie tigri. E poi perché le tigri non sono io sbalzate qua? No, non so. Tu fai la tua azione preparata, giusto? Picchio tantissimo il primo che si avvicina. Ah. Faccio un round. No. Un attacco. Però se mi attacca. Se ne sta, poi c'è il Kamen Gai. Quindi do la picchio. Mi sa che 28. 28 di merda, secondo me. 28 si colpito. Danni 31 e come Swift prova a intimidirne uno. Non puoi fare una Swift, devi farlo prima. Ah, scusami, vai. Sempre preparato. Danni 21? Sì. No, 31. 31. Beh, perché non hanno la damage reduction, per questo. Ah, ok. Hanno ben due CR in meno, quando hanno più PF sono più forti, fanno più danni, hanno vita speciale straforte. Vabbè, ok, ci siamo capiti. Madonna. Ci siamo capiti. Fatti danni 31? 31, sì. 31, ragazzi. Okay, sicuramente quella damage reduction al posto del raggio che fa i danni, non ci lascio, sempre. Cos'è il raggio? C'ho il come and get me. Ok, vai, fai subito l'attacco. Sul come and get mi metto il Coco Smash anche. Per intimidirli. Sì, puoi, penso, sì. Sì, cioè, non so se lo farò però sulla prima. Va bene, va bene. Sono. Quindi che non si lascia intimidire facilmente. Che sembra impossibile intimidirlo. Ok. Se non posso bisogno immuni a mandare. Vabbè, io ci ho provato. Sono ragni meccanici, in effetti. Beh, comunque. L'ho colpito 35. Danni ciò non fa di loro cose meno buone. 33. Dimmi che non ho ammazzato. i loro occhi brillano di luce magica. Quanto? 33 danni. Che culo, allora. Vabbè, posso attaccare io adesso? Sì, sì, tocca ai tuoi 5 ragni con 4 attacchi l'uno. No, ne sono lontani. Ah, beh. Poi sono 5, cioè, è morso. Ah, vuoi buttare via quel bellissimo morso? Vabbè, ci ha 20. 20, in io. Ok, colpito. Ridendo. Insomma, non c'entra. No, no, cioè, proprio il risultato. Ok, prendi. Dieci danni. Perché questa cosa mi puzza? Prendo solo 10 Aspetta, danni. Scusa, ho dimenticato i fissi, 16. Ah, ecco. Beh, io provo la damage reduction. E questo qua che ti ha colpito emette un raggio dall'occhio. Psium. Che cazzo è sta roba? Yes. Un raggio che sembra di elettricità. Anzi, è elettricità. E ho tirato 20 seriamente? No, è l'altro dado che ti dà. Però boh, funziona il critico su una supernatural ability. Non lo so. Che fa danni? Non vedo perché no. Non vedo, non vedo proprio perché no. Funziona sugli incantesimi, no? In teoria, sì. Cioè, andiamolo. Beh, bene, sarà difficile. Cos'è, touch? Sì, confermato, direi. Simone, non c'è una sessione qui ricchi di non morire, magari. Infatti questa campagna si chiama Salvo il Barbaro. Sì, infatti. È leggermente diverso. E per ora non sono ancora morto, forse. Beh, non so, 24 di 6 non tanto. Sono un po' troppo. Ah, fai un tiro salvezza di flessi, scusa. Beh. Ma evasion, tipo, essendo barbaro, no? Sì. Allora, io dai, ce l'ho al quindicesimo. Se supera non prende niente. Sei in ira? Oh. Sì. Io sono sempre arrabbiato. Che sono sempre arrabbiato. 32. Passato. Ha fatto 20. 20. È automatico. Tu qui quello che sai fare. Ragnetto. Eviti il raggio che fa. Tu ci acchi al naso perché era un critico. Ok. L'altro invece prova a morderti. Fai il come and get. 30 colpito, sì. Non li vedo. Sono 34 danni. Ok, prova a morderti e entrare in grapple. Che c'ha grab. Che bello. Il morso colpisce, ti colpisce. Okay. Se superi 20 colpisce, quindi cioè, penso quasi tutti. E ti fa 10 danni. Quindi solo 7. Per anche la vita magica, cioè riduce i danni. Serve tantissimo. Cioè, sì. Poi ho tirato un 19, che c'entra abbondantemente. Non c'era l'altra volta. Quanto fa, scusa? Quanto hai CMD, scusa? 33. Ciao. Così la fa quasi col fisso, praticamente. No. Entra in grappolo. Dave, c'è ancora il pedino dell'altra volta? Ok, adesso qua fermiamo a stazione con lui. Ah no, gli altri ragni, scusa. Si avvicinano. Fanno i raggi anche loro. 20-20. Vediamo un po'. Che abbiamo un barbaro corpse. Uno lo fa di fuoco, l'altro lo fa di freddo e l'altro lo fa di... Ah, perché sono puri. Il fuoco lo di mezzo di 5 danni. Quindi se lo fanno non sono immuni a fuoco i danni da gli altri. No, non è detto. Di mezzo di 5 danni. Dammi speranza. Sì, tipo, se per una ragazza io... Che non sono immuni ai danni da fuoco. Anche vabbè, quanto hai dici a touch? Se non usare credo. Magari che esistono, però. Cioè, oh, 16? No. Okay. Ho una CA touch, questa è la domanda. Colpiscono tu. Ho fatto un altro 20. Che bello! Che era quello di elettricità, ok? Fai 3 tiri salvezza riflessi. Fai il primo, l'ultimo è quello col critico. Ok, quindi sono 3. 3 tiri salvezza riflessi, vai. Allora, vediamo in quanto tempo muoio. 20, mi sa, questo ho già preso sul muso. 20 totale, sì. Cioè in senso superato. Ah, vai, possiamo farcela, ecco. No, vedi, va bene che non è quello del critico. Esatto, però meno male. È improved evasion, evasion e basta. Evasion e basta. Evasion c'ha solo il lato, tipo, infatti. E allora vai con sti 12 di 6. Ah, ma aspetta, ah, sì, ma non basta. Però no, esatto, non di mezzo lo stesso perché non è improved. No, di 6. Di 6. Quanti ne vuoi? Qua ce ne sono un paio. A me un altro. Se ne avete altri 6 se ne parla, altrimenti Madonna. Perfetto, perfetto. Tre. Così è posto. Io ce l'ho. Facci vedere qua. Ciao. Dai. Minchia. Cioè, non ci fai di 6 qua. Cioè, hai fatto quanti di 6? 5, 5. Cioè, ha fatto, quindi, guarda quanti sei. Cioè, più della metà. Ma perché? Su 12, 18, 21, 6 più 7, 42. 6 più 7, 42. E 15? 47. Più 2, 40, 2, 40. 49. 49. No, 59 in teoria, cioè 59. 59, ok. Quanti cazzi tu? Scusa, 12 per 3 e mezzo? Che senso? E quant'era la media? Aspetta, fammi fare 59, 12 per 3 e mezzo. Meno male che ho 2. Vabbè, ho sono a metà PF. Un po' sopra la media, vabbè. Sono a metà PF, tanto, dai, posso 49. E adesso tiro salvezza su quello col critico. 16, okay, più passato. Sì, sì, quello lì è. Cioè, quello lì è moltissimo. Ok, voi cosa fate? Io sono in combattimento. Quanti danni gli ha fatto, scusa? 70, ho 76 danni addosso al momento. Sì, ma c'hai tipo 150 punti. Io fossi te, ti ha fatto dare. Proverei a telare verso i tuoi compagni. Ma sono in grab. È grabbato pure. Che disagio! Sei anche. Abbiamo un cadavere. Comincia a chiamare Corinne, magari ti sente da lontano. Lui corre dentro. Per forza, qualcuno devi. Cioè, c'è una porta, si niente nella porta. Cioè, è per questo già vedi che la gente crepa. No, è con compagni che hanno provato di entrare in una porta ed essere legati a una corda, penso che sia una brutta idea perché si spaccano la spina dorsale. Come se fosse mai successo in D&D una cosa del genere. No, non è mai successo in vita mia. E tu che non hai tirato? Come non? Noi eravamo, legati alla io corda. Io gli ho detto, sono pronto a tirare di voi, entriamo, la leghiamo, però io la leggo sulle anche. Sulle anche! Cioè, abbiamo mai fatto cose del genere? Dai, voi cosa fate? Veloci, sentite il rumore di combattimento. E noi siamo, legati. Voi siete legati? L'iniziativa l'abbiamo tirata, no? Beh, siete fuori. Siamo fuori da combattimento. Beh, sentite la corda che viene strattonata ripetutamente perché sono in grado. Possibilità di morire, che noi siamo addirittura fuori dal combattimento. Scusa, ma Istra è legato con voi? No, siamo solo io, lei e... Ma lui che vola non vede? Tu hai fatto fly? No, sono solo Sì, ma ne ho un altro. Cioè, se siete legati, lo puoi su di lui. Però, sì, su di lui, sì, su. Vabbè. Perché se voi siete legati, se lui è fuori... Poi no, no, anche lui è legato. Ah, ok. Sì, ma siamo io tutti legati. Noi siamo tre piccioni legati. Cioè, è stata strattonata in qualche modo, no, la corda? Perché il combattimento muoveva. Che idea di... Allora ha sentito che c'era il combattimento. Beh, ma adesso confido nei miei intelligentissimi compagni che hanno più di 8 intelligenze. Ma cazzo fai a gestire sta battaglia in quattro pareti? Cioè, ci dobbiamo sparare nelle palle? Vabbè, si fa senza griglia. Io sono un god, ho bisogno della griglia. Anch'io ho bisogno della griglia, scusa, E descrivimi com'è la situazione. Cioè, ci sono due ragni su di lui. Uno, a parte che non lo sai bene se siamo fuori. Per terra. Con due ragni? No, per terra. Cioè, quanto è largo? È dentro un ragno. È largo due ragni, quindi quattro quadretti. Due ragni. Scusate, non è quattro quadretti. Detto che non lo usare. Lui c'ha un ragno addosso e un altro a fianco. E altri due ragni sono sulle pareti. Gli altri tre ragni sono sul tetto, volevo dire. Scusa. Sul soffitto. Sì. Due vicini. No, sono un po' lontano. Posso cacciare la farfalla. Tra loro. Ah, tra loro? No, sono tutti vicini. E quanto è alto il... Sono tantissimi da tirare. Il soffitto? Fai cinque quadretti. 5 quadretti. Così la do. Se io non è realistico, lo cambio. 5 quadretti, così poco? Beh, minchia, tantissimo, scusa. Ma più di 6 metri. Sì. Minchia. Ok. No, ma è difficile colpire, secondo me. Vabbè, allora andiamo dentro. Circa 5 direi quadretti. Che... No, pensateci un altro po' se vi conviene. Io volo. Beh, pensateci bene. Voi che non volate, posso fare il flare. Provate ad avanzare verso di lui, ma rimanete con la porta qua. Come succedeva alle tigri. Ecco, forse essere legati e essere trascinati non era una cattiva idea. Qualcuno ma infatti pensare. Ci abbiamo... ci avete pensato un po'. Ma aspetta, ma non potete tirarvi voi? Giusto. Ci tiriamo noi. In grappo lui direi che... Cosa succede? Si fate una cosa. E niente, che lui semplicemente è bloccato. Ma voi non sapete com'è veramente. No, non lo sappiamo. Vabbè, ma se noi tiriamo così e nessuno lascia la corda, vuol dire che è incastrato da qualche parte. E c'è la lui la corda. No? Ma non è che magari solo lui mi tira fuori dalla gamba che mi tira. Lui si è legato. Ma no, ma perché? Cioè, non è che slittate sul posto. Voi vedete come se proprio vi muoveste, no? Però la porta resta a fianco a voi. Capito? Ma non ha nessun senso, no? Non l'ho capita. Per noi non aveva senso, però. Se mi ci fosse. Cioè, quindi noi vediamo che ci muoviamo. Come se, cioè, per voi è più come se la porta si spostasse con voi. Esatto. Che voi rimaneste sul posto. Però solo la porta. Tutte le altre ambientazioni intorno a noi si muovono. No. Allora cos'è che si muove? Cioè, perché ci sembra che ci stiamo muovendo? Il pavimento. Mi solo il pavimento. Però i muri a porta restano fermi. Esatto. E il soffitto? Il soffitto resta fermo. E non c'è niente a cui aggrapparsi. L'unica cosa che sembra muoversi, cioè che perché vi dà l'illusione di muovervi, è il pavimento. Abbiamo preso le scale mobili di Roffiera, al contrario. Quindi si muove anche il pavimento rispetto al muro. Cioè, il muro che si muove rispetto al pavimento, chiaramente. Se uno si muove l'altro resta fermo rispetto al nostro prospettivo. Sì, okay, è ben integrato in modo che non si veda lì. Vabbè, noi proviamo a direi tirarci. Che con queste domande puoi fare un will save per disbelifare l'illusione. Fammi un tiro salvezza volontà. Vai. Perché hai capito che il problema è il pavimento. Ah, io ho detto scale mobili, però. Non vale. Un ottimo 4. Ah, volontà? Sì, infatti sì. È spell, sla o poison? Sì, spell. 15. Sla. Sla. 21. Tu? No, ho tirato 6, 16. Ok, tu ti accorgi in pratica che il pavimento è un'illusione e che sotto di voi in realtà vi è quello una sorta di tapiola. Che figo! Cioè, noi siamo dei deficienti, non l'abbiamo mai visto. E riesco a capire no, come. No, sono un'illusione. Le pareti, fate climb sulle pareti. Sì, siete adesso vi faccio riesco a capire come. Esatto. Come potessi superare la cosa? Sì. Beh, se uno di voi si sposta in un'altra direzione, sposta l'altro, che è quello che è successo con le tigri, no? Perché loro correvano verso di là, lui è entrato stando fermo e quindi il tapirulan si è spostato per così e lui è arrivato dall'altra parte. Ah, perché i tigri spostavano il tapirulan? Esatto. E noi siamo tutti... Bellissimo! Però in effetti, se noi siamo legati, uno fa... Cioè, uno va dalla parte... Uno che corre dalla parte opposta, gli altri tipo due vengono, gli altri due vengono spinti di là, quindi anche l'altro viene spinto di là. Giusto? Siamo una due tigri. Cioè, sto muovendo per colpa di un tapirulan. No, ma va bene, è solo che ci mette un round. Penso che sia quasi tapirulan nascosto in modo. Quello è sì che. No, ho sbagliato. Guarda. Scusa, siamo una altre tigri che corrono. Mi sembra la cosa migliore. Devi spingermi quando ho le braccia aperte. Sì, vabbè, posso sammonare quello che voglio, però intanto lui muore. Hai un'altra idea per raggiungerlo in fretta? Sì, io posso raggiungerlo volo. Ah, giusto. Anche lei. Io mi sto già avvicinando, da anche lei si avvicinava. L'avevo detto che stavo avvicinando. Spingici. Dimmi quando sono, quando vedo la situazione chiaramente. Mi pare che uno di voi resta e spinge l'altro. Dai, I resta. E blocchi. Chi è? I, quell'altra che è con noi. Ah, giusto. La che è uno, però. Istral. Voglio... spingo io il tapirulano. Oddio, spingo io. I che spinge. Sta dietro e spinge. Esatto, sta dietro io a spingere. Resta indietro e spinge. Ma davvero? Sì. Aspetta un attimo. Mi viene troppo bene, non avevo qualche dubbio. Oh, mamma mia. Donini, morino. Anzi, basta. Shazza mi veniva bene anche lui. Certo. Sì, perché sei uguale. Non per caso. E va bene, allora facciamo il contraccolpo? Facciamo, quindi noi siamo fermi. Esatto, lui corre nella direzione opposta. Ma perché... non tiriamo l'iniziativa? Ma beh, voi siete insieme, dovete evitare la tiriazione. Intanto voi siete dopo di lui. Era... Ma lui è uscito da questo tapirulan? Eh sì, perché arrivando alle scale finisce. Quindi... Ok. Sì. Altrimenti andiamo indietro. Perché troverete quello cagno? Come è passato avanti? Che cavolo posso fare? Io faccio Black Tentacle. Ma quanto ha fatto lui di strada? Lo so per la corda. Devo capire quanto è grande esattamente questa piramide senza lasciarla nelle vostre menti un po' sbagliato. Diciamo. Hai detto 60 fitta gambe, mi voglio quanti gambe sono andato. No, beh, ma sei raggiungibile subito, infatti. Tranquillamente. Infatti, cioè, voi potete arrivare adesso. No. Il turno dopo, agito. Cioè, non c'è problema. Cioè, con un'azione. Se questo che volevi sapere, sì. Di round completo. Ma no, ma. Per spostarti penso che se tu adesso ti sposti loro fanno un round, sicuramente attaccano anche tra quelli che sono arrivati di voi, non si concentrano solo sul barbaro. Mm-hmm. Visto che pensa sia una pippa, visto che sto di a prendere certo pasta. Ma perché non ha fatto coming at me? L'ha fatto su due. E infatti ha fatto un bel po' di danni, ho capito, tipo ha fatto 100 danni fuori dal suo turno. Questi sono altri problemi, vabbè. Si pegano quei 70. Sì, però la prese tante passi. 70 raggi. Non ti ho fatto neanche il raggio più figo. Adesso Che bello, perché non lo fa? Parlo su di lui, che lui gli piace. Ma anzi, io avvicinandomi vedo la scena. Io avvicinandomi vedo la scena. Sì, voi adesso arrivate in fondo. Cioè, voi che avete volato arrivate lì, vedete la scena. I ragni vi vedono. Va bene, facciamo così, dai. Non so se quelli già invisibili. No, no, Swift Action, Vanish. Prima o dopo? Dopo. Prima di arrivare dai ragni, ovviamente. Ok. Non ci penso mai a fare il video. Cioè, perché io vi potevo fare fly, però io... Ma lei, ci aveva ancora scassato. Meglio che non sei invisibile, no, se no lo ammazzavano. No, no, ma tu fai... Quanto dura? È meglio che non sei invisibile, se no moriva lui adesso. Cioè, così... Probabilmente. Tra l'altro c'è solo lei. E tu. E infatti ho detto, mi sono maledetta perché se potevo fare invisibilità, mi sono dimenticata. Sbaglisco, ma hai fatto bene. Senti, ma posso fare così? Faccio fly... Allora. Scusa, fatemi pensare un secondo se posso fare qualcosa di concreto per salvargli la vita. Se no, faccio fly e poi mi sposto. Faccio a me? Fly. Sì. Ma tanto c'è Istral che spinge la dietro. Ma Istral ci sta spingendo la. Ma lui va. Ok. Bellissimo che spinge. E ci mette solo a parte una... che io posso già colpirli questi qua con la mia freccia. C'ho la freccia che gira. Sì, ma devi sapere che ci sono almeno dove sono. E io sento che c'è una battaglia. Sì, tiro devi, la freccia. Devi sapere dove sono, devi sapere il quadretto. Visto che non c'è una griglia, come faccio a sapere il quadretto? Non puoi saperlo anche se ci fosse la griglia. Perché comunque non è benissimo. Beh, il corridoio non è tanto grande, questi sono grossi. Beh, puoi dire, colpisco a caso uno dei quadretti. Vaca, quando sono grossi questi qua, li becchi. Lei, non so, porti tu la pasta o la porto io? Ma gli posso fare questo? Quando sono grossi, parecchio, ti dico, cioè. Non posso sparare a caso e... Beh, sì, certo, magari sì, se sapessi che sono grandi tutto il corridoio, sì, però non lo sai. Quando sono ti dico parecchio, se mi ci vado solo ti dico tanto. Boh, cioè alla fine in effetti è una freccia, però... Sì, ma mettiamo che se colpisce me con lo culo che ho... Vedo che il corridoio non è tanto grande. Se colpisce me... Scusa un attimo, dopo ho finito. Lui davanti uno dei quattro, comunque, il quadretto. Hai la possibilità su quattro colpire. Ho una possibilità su quattro che tu faccia un tiro, che io ti possa colpire. Sì, ma tu lo colpisci, sì. Tu hai idea che se mi colpisci poi io te ne do tanto. Una domanda. Aspetta, però posso anche colpire. Adesso... Tra volte su quattro colpisco io mi muovo e basta, dai. Giusto? Mi sembra allora un po' compromesso. Cioè, non lo posso comunque salvare in questo round. Quindi tanto vale che faccio fly su di lui, così lui usa il suo round per prendersi un po' di danni lui. Ok, faccio fly su di te. Come ma Swift, sta cosa, come Swift ma Action, scusa, mi faccio vanish e mi sposto di tutta la mia velocità. Ma scusate, ma tanto Istra adesso... Ci sta, Istral ci ma sta. Scusa, se lui spinge. E nel frattempo io posso anche attaccare. Anche perché noi siamo legati. Ma io non lo farei. Metti che colpisci davvero lui. Cioè, guarda che sono tanti. Ma no. Scusa, ma secondo me non lo colpisco. Perché è una volta su quattro in cui posso colpirlo. No, tu lo colpisci automaticamente. Ma sei colpito. Ma scusa, ma non può aspettare che Istral lo porta lì. Lui non si muove perché è un tapirulam. Arriva, fa un fullato. Prepara l'azione. Prepara l'azione. Se mi colpisci, mi personaggio poi ti uccide. Una volta su quattro. Capito? Okay. Il mio personaggio ti prende 3 volte su 3, t'avviso. Non siamo alla fine dell'iniziativa, siamo fuori il combattimento. Guarda il combattimento. Quando è arrivato davanti a lui e ragni... Basta. 25. Ti colpisco qua, guarda. Bene. Al primo e allora spostiamoci tutti insieme. Al secondo lo farò 9 e al terzo lo fai. Lo faccio per te. No, lo fai per me il cazzo. Se lo facevi per me, ti muovevi sei sotto cazzo a piculando 2 ore fa. Invece lasciarmi qui a picchiarmi con dei gatti legato a una cosa. Come fanno? Loro si possono spostare sul terreno. Perché alla fine non c'è più il tapirulanzo, semplicemente. Cioè, ok. Va bene, dai. Ma io quando arrivo a vedere questi ragazzi mancava solo il 6. Adesso, ma ragazzi, che problemi c'è? Siete in fondo all'iniziativa. Adesso c'è un round in cui voi ci siete tutti. Okay. E ci sono anche i ragni. Okay, capisco prima i ragni. E voi pagite voi. Siete arrivati? Siete poi contenti? Qual è la questione? Che casino. Ok, vai. C'è tutto con seconda piccola. No, adesso ho capito, ma prima pensavo di essere l'iniziativa. Vai. No, sì, no. In fondo all'iniziativa. Ok. E adesso sì. Quindi, invece no, prima te, i ragni. Giustamente. Tu sei grapple. Sì. E non puoi attaccare perché c'è l'arma a due mani, giusto? Funziona così. Sì. No, quello forse solo se... No. Mi ricordo, era così. Sì, sono in grapple. Quindi faccio una prova di fuga. Quando lo vedo non posso fargli... Escape artist oppure... oppure CMB contro CMD? Una bella domanda. Non potevo fare che... No, vabbè, dai. Perché volevo fargli liberating combat. Però fare un detection, no? Sì. Posso farlo? Sì. Ah, okay. Adesso sono entrato nella battaglia, allora lo faccio. Quindi sono libero? Devi fare un più 20. Escape artist più 20. Ecco cosa dovevi mettere gradi, ci siamo dimenticati. No, gliel'ho messo uno, però gliel'ho messo purtroppo. Era contro la CMD, giusto? Cioè, sul CMD, CMD contro la CMD era uscito dal grapple. Cioè, in realtà tipo di 20 capadroneggiatore del grapple, a quel punto per fare la fiaccia per lasciare il grapple. Ovviamente quello. Quanto continuare? Cos'è un P10? La fuga? Cosa che devo tirare? Un di 20 e basta? Il tuo artista della fuga. Con bel meno 2. Meno 2 più 20, 18. E devi tirare un dado 20 più 18 per sapere se riesci a sopraffare il loro. Loro hanno almeno 30 tanto, di più. Un catenino di livello 1. Ma tanto per questo GMB probabilmente farebbe meno. 16 più 18. Più 18. 34 meno 2, 32. No, già, è già 18. Già, ah, scusami. Forse per poco. No. 34 no. Anche con il CMB è contato anche lì, no? Lì, non penso. 31, sì, allora se è 31 meno... C'entra il CMB, sta facendo escape artist. Sì. Ah, già, è vero. Niente, allora. Ma forse mi conveniva farlo quasi sec col coso. Perché, vabbè, hai fatto... Puoi scegliere. Tanto sommato. Il cantesimo escape art. Adesso puoi fare quello con CMB. Faccio quello lì, allora. Sommo 23. Dipende da quello che dici. No, 33, niente. 34 no. Contando che sei in IA, 33, sicuro? Eh sì, è più 10 modificato di forza. Ok. Niente, più il BAB è tanto di poco comunque. Ma la entrambe le volte. Se sono un 35 di merda, sicuro. Senti in grappole puoi fargli no, niente. Niente perché. A meno che non puoi provare a intimidire. Una persona. No, metto sono i muni. Ah, già giusto. Mind affecting. Ah, già giusto. Metto prima. Anche se Guido. Anche se Guido penso che... Ce vai! Perché voi sei a terra? Uno e due, no? E anche... Ah no, lei sta correndo in direzione opposta. Allora, voi che siete a terra, uno dei due ragni che era su di lui, se ne va, però comunque attacchi l'opportunità se sei grapplato, sì. Uno di quelli che era su di lui, come faccio quello che lo grappa? Non puoi attaccare perché è un'arma a due mani. Quindi. Posso usare la claw? Sì, puoi lasciar cadere l'arma e usare le claw, ma... Ma non te lo consiglio. No, esatto. Perché sennò avete una mano... Oddio, potevo anche prendere la pugna. Ah, sì, forse sì, è vero. Scusa, posso dare una mano? Effetti, sì, sì. Sì, fallo se vuoi. Potevi farlo anche prima per attaccare quello lì, in effetti. Vabbè, ci ho pensato. Anche che scena io potevo lasciar trascinare sul tapirulane e tante vocare. Mm-hmm. Non ci ho pensato. Aspetta, che devo vedere gli attacchi con le claw perché non ci avevo mai pensato di farli. Ma trascinava più piano. Mm. Immagino. Lui non ha detto quante trascinare. Colpisco una 33. Cioè prima erano quante tigri. Mi dai il D8. Chi vuoi due era più avanti? No vabbè ma apparivano una volta che avevo arrivato. T8 ce l'ho. Chi vuoi due era più avanti? Se non lo sapete tiro. Anzi tiro io il dado percentuale. Come eravamo messi? Eravamo messi. Io ero in mezzo. Sopra 50 secondi. Ok mezzo. Allora io ero di qua e c'è dall'altra parte East. Dai è tirato. Fatto 11 danni ragazzi. Era avanti lei. Sopra 50 tu eri avanti. Era avanti lei. Perché? Perché io ero in mezzo, Istral era indietro. Perché io mi ero messo in mezzo perché non voleva stare. Perché non voleva Istral dietro, ha detto. Ah, ho fatto 11 danni col primo attacco. Ah, vai. Quanti? 11 danni. L'attacco d'opportunità lo fa adesso? No, questo è quello in grappolo. Quello in grappolo l'ho fatto 11. Ah, quello in grappolo? E smette potuto fare l'attacco? Se vuoi, non lo faccio più, nel senso lo conto. No, va bene, va bene. Perché io ho due cloma. Siamo buoni col murituro. Grazie. Vedi, questo perché me lo fatto altro. I cadaveri ambulanti. Faccio dare l'opportunità al ciccio. Mi sa che lo manco. 4-27. 27 colpito. 14 danni. Riesco a picchiarvi anche senza le armi. Che bello. No. Cioè, tu immagini la scena. Cioè, questo qui, sta parlando. Quanti danni, scusa? 7-14. Ma di questo sta passando i bambini con un pugno così sulla testa. Ora li vediamo si tezzi qua noi, sì. Uno va mi attacca persino. Tu vedi davanti. Loro vedono a voi, è quel il problema. Io non ci vado più davanti a voi, tutti stronzi. Ah, si becca attacca perché è davanti. No, c'era giù davanti. Ormai. Cioè. No, mi piace. Prova a entrare in grappola anche lui. Pure. Ci godo. Così imparate a non saltare su sto apigulan. Pericolosissimo sto apigulan, sono un sacco di persone. Quanto hai CMD? CMD 16. Ok, sei in grappolo. Intanto ti becchi anche. Schifo. Sei abbracciato con un stai lottando. Non ti piace. Dai, zitto! Che scherzo! 7 danni. Posso andare in ira anch'io? No. 7? Sì, 7 danni. Schifo. E ti fai il raggio di fuoco. Io ho delle piume. Ma niente, ti colpisce. Fai tiro salvezza di flessi. Anche tu hai evasion, mi pare. C'ero 15. Ah, ce l'hai al 15, sì. No, no. Ce l'hai più prima, scusa. No, è vero, non ce l'hai. Niente, scherzavo. Ok, niente, non ce l'hai, basta. Quindi? Niente, per te è normale, di mezzi bastano. Cosa devo fare? Io sono mezza riflesso. Da cosa devo superare? 12 di 6, comunque qua devo tirare. 16. Totale? Sì. Niente, non lo passi. Prendi il danno pieno. Io sono di 6. Qual è? Quanti ne vuoi? 12. Totti e Nip. Vuoi quelli viaggio? Non è che sono di più per... Sai che mi piace? Ho fatto un bel tiro. Ecco. No, vabbè. Una sfilzata di 1, eh. Complimenti. Questo è favoritismo. Diciamo così. Questo è favoritismo. 30, cioè sono anche grappolata a un ragno, 38 danni. Cosa? Cioè, presi 60 e basta. Chi se ne frega? No? Sono stesso tiro di danni. Cioè, 20 danni in più. No, a parte che qua ne tirate solo 10. Ah, ecco. Infatti, come 10? Questi sono 10. Ah, to. Ah, mancavano questi. Non vorrei mai dimenticarti. Altri 9 danni. Quindi 38 più 9? Beh, se ne 38 e 9, tanto uguale. 47. E comunque sono 12 danni in meno. Gli altri sono tre già che metà sul soffitto iniziano a sparare raggi a chi non è stato. Altri qua non sono 5 totale. Dove sono sul soffitto? Uno. E un attimo, poi c'è quello che ingrappola con lui. Okay. Quello in grappolo è per terra, giusto? Sì. E accanto c'è un altro. No, adesso è andato da lei. Ah, quindi è avanzato. Con lei, sì. Avanzato. E questi qui sono qua. Sono dietro. Qua dietro. Ok, quindi loro ma qua, lui è più avanti. Loro, qua, loro due sono più avanti. Un altro avanti. Ok, grazie. Danilo, loro due sono più avanti di noi. Di te è poco. Tu sei subito lì, praticamente. Siamo tutti vicini? No. Voi due? Loro due, dico, che sono volati. Ah, boh, come volete. Come siete messi? E io mi devo metà della... E io un pochino di qui più. Però non gli frega molto, basta che cercano di stare distanti dalle cose e non vengono attaccati da me. Cioè, state abbastanza dai raggi. Cioè, se fatti voi che volate, vengono attaccati dai raggi. Cioè, se in tanto se mi vedono. Tu sei invisibile. Allora, due attaccate con i raggi e l'altro attaccate che sei incolume. Tu ti stai prendendo 24 dadi. Un TS. Quanta intelligenza hanno? Questi ci spaccano. Sta tranquillo. Ma vai, perché è sempre più di male. Cioè, vai, dici a touch tu che ma tu fai qualcosa, dai, dopo devi a volare. 13. E non è anche il mio turno. Evochi le iene che corrono. Non è ancora stato detto. Tra l'altro, il casino è successo perché le iene. Sta ancora in un'altra parte. Tu hai una bella idea di mandare le iene. Ha scritto sbagliato. In pratica, esatto, è impossibile. Già più sei di destrezza. Poi quello di cioè, insomma, tipo l'intelligenza, anche una roba del genere, di dodge. Quindi già 19. E poi c'è probabilmente anche tipo il deflection, fa 20. Ok, uno ti manca. Quanto quindi, scusami? Almeno 20. Lei, almeno 20. Non so, adesso non so quanto precisa. Io avevo sbagliato anche a segnare. Quindi. Ok, un raggio ti manca, mentre l'altro ti colpisce. Fai un tiro salvezza riflessi. 31. Grande. Okay, comunque prendi metà dei danni. Ok. Di 6 forse sono 10. Questi sono 10, dammi altri 2. La metà di questi danni 24 di 6 come Jason. Sì. E sono, scusami, sono più bassi di CR del Golem? 11, CR11 ogni anno, un CR11. Domanda, è giusto? Cosa si sono fumati? Cosa è storia per giocare a D&D? Grazie. Cioè, non può essere un CR11 che fa così tanti danni di mezzo. No, tu non ce l'hai più, te sei curato, scusami. 29, 5, no, 34. Non ce l'hai più. Ma va, l'altra volta ci siamo curati. Non lo so se non ce l'hai più. Ma sì, sono 17 volte. Ti dico, ho pagato anche lei. Con la bacchetta di Restoration che c'era la tipa. Io avevo i due danni. Tu non mi becchi bene adesso. Quindi adesso quello il raggio che è su di te invece. No, per ora non usiamo il raggio bello. Come no? Usiamo il raggio bello, dico io. Per ora no. Usiamo il super raggio. Ma vuoi aggiungere un po' di pepe, lo uso. Certo. Questo aggettivo. Già sono non so se usiamo perché mi sembra veramente troppo sgravo. Sì, mi sa che non c'è. Cioè, nel senso, è proprio una roba che si sono fumati il cervello quando... Usalo. Cosa fa tanto per chiedere se non lo fai? Cioè... lo userò dopo. No. Usalo. Comunque, ancora piena vita che vale... Cia Touch 24. Mancato, bastardo, di autobasso. Dovresti usare il raggio bello. Ti puoi usare il raggio bello. Non ti conviene, perché se ti fanno parecchi male. Tu sei visto, io non sono buono. Se vuoi togliere qualcosa è perché è davvero la tolta, però vabbè. Madonna, okay. Esatto, se non c'è una cosa è troppo forte vuol dire che effettivamente è sgravo. No, è sgravo. Posso agire io quello in grapple con lui. Tiro iniziativa. Cosa fa di bello? E ti attacca con le sue quattro chele e il morso. Come in raggio. E c'è il come in get. Con le sue quattro chele e il morso e il raggio. Non posso colpire con qualche una mano. Fai il come in get. Ah, non puoi, puoi fare solo con la clou. Vabbè, come in get. Meglio che un meglio di niente. Mi vedo un pugno in bocca. Vabbè, 29. No, scusami. 26 dovrebbe essere. Puoi fare il full attack se sei, sì. Se sei andato puoi farlo. Deve avere un talento. No, cazzata, non puoi. Deve avere il talento. E puoi rifarlo. Sì. Eh sì. È come ha fatto tutto lo scorpione. 26 comunque. Lasciarlo per 26 danni? No, colpi, tiro per colpire. Ah, colpito. Sono 11 danni. Non è morto. Non li spacchiamo questi. Ciao a tutti, cazzo. Questi ragnetti. Eh sì. Un CR11 ne spacco due. Solito così. Ok. Cosa mi lasciano? Come? E mi riprendono? Sì, ti lascia. Scusa, ma in effetti se ti lasciava potevi farlo con... Infatti, cioè, meno che non fa il primo attacco no, quando no, sono in grado. Non può, non può. Dai, allora niente. Ritiro. L'avevi colpito, dai. Ti dai danni più diversi. Magari faccio... Mi sembra la democrazia. Mm-hmm. Sono 34 danni. Di più attivo per colpire. Sì, sì, siamo a 25 qua. Sono 34 danni. Fa un cazzo di critico sto giro. Dovrebbe essere ancora più abbondantemente. Abbondantemente no, però okay. Quasi sicuramente. Ah, poi i danni gliel'avevo fatti, ora su una novantina di danni sto stronzo, Sì, infatti. Sì, ancora lì. Complimenti. Prima con... Quante BMP hai per sapere? Questo lo dico. Uno. Mancato. È il numero di BMP. 76. Sono a metà BMP giusto. Ah, vabbè, dai. Cazzo, più hai 20 però tu dici. Sì, preciso. Ok, colpito. Te se fa due ti colpisci. Problemi di essere barbaro non avere il camminghe ti bisogna attacco, se no è già morto. Ok. Datemi due di 6. Solo due. Sono commosso. 11 danni. Perché? Quindi. Cos'è? Il morso? No, era che ho tirato basso. Sì, più 3. Ok. Ho tirato 4 e 1 su due lati. No, aspetta. Sono stato un disturbo. Questo è un round 11. Di battaglia di un'ora e mezza. Niente. Cioè, no, niente. Non è ancora capito, cioè, niente, nel senso, non ho tirato uno. Cioè. Ah, ok. Vabbè, tanto. 8 e 6, 14 danni. L'ultima. Sono sempre tuoi questi danni. Sì, sì, sono tutti miei. Colpito. E io faccio la collezione. 8 e 6, 14 danni ancora. Quindi, meno 11. Morso. Ragazzi, aspettiamo pazientemente che arrivi il nostro turno mentre fioccano danni sul barba. Come altri 14 danni. E prova a grapplarti ancora. Eccolo. Ah, perché lui è libero adesso. Cazzo. Ah! Uno sul grapple. Ottimo. 85 PF. Consiglio di uscire, bello. Sì, dove cogo? Sul tapirulan? Eh? È vero. Il raggio, il raggio. Ma mannaia! Il raggio. 5 PF, 19 ho tirato. 8. 8. 13 pegato, 25. 0 danni. Boom. Ok, tocca a noi. Tocca a voi. Posso girare? Facciamo iniziativa? No, non c'è bisogno. Tanto siete tutti dopo. Potete posticipare come volete, arrangiarmi come volete. Vabbè, in realtà non devo per forza. Ci abbiamo ancora il stativo? No, chiaramente. Faccio sto ace. Se io... Sono spariti le tigre con le tue. No, non vi faccio ace no. Ora. No. Se io ho ace, però è solo su di me. Non c'ha ace. Sì che ce l'ho. Può castarlo lei. Posso castarlo. Sì, ma si può castare ace lo faccio tutti chiaramente. Ah, ok. No, infatti era questa la domanda. Castaci. Tu non ce l'hai ace comunque se non sbaglio. Ne ho due di Ace, posso farlo. Ah, sì? Che bravo. Cioè, è di terzo livello. Direi che puoi fare quello e un full attack, tra l'altro. Sembra una buona idea. Ok, c'ho Ace. Vai, allora agisci prima. Dire che un po' di scusa. Sì, anch'io. Per me è quella cosa gialla. Pugina? No, è un giallo molto più chimico, per fortuna. Mi tranquillizza. E non so, lo diretto mi faccio tutto io. E fai sì, ma fai Black Tent. Per forza, cosa hai fatto Ace? Black Tent, se ho fatto Ace nello stesso turno, no. Allora fai Ace. Attacca, no? Attacca. Ma stai vicino? Può decidere chi attaccare, sia quello che è su di lui che quello che è su di lei. E gli altri tre sono perché tu sei in mezzo, a quanto ho capito. Io comunque sto volando, esatto. Però non può fare il full attack se si sposta. Quindi cioè, posso solo lanciare Ace. Secondo me tu vieni a fare Black Tent con questo Ace, però. Sì, dai ragazzi, se lo faccio dopo, faccio Black Tent. No, aspetta. Ma Black Tent non colpisci quelli, cioè colpisci soltanto uno, però. No, quelli che volo, li fa dall'altro. Ah, quei tre sopra lì. No, non fare Black Tent, questo no. Che li guarda? Cosa fa? Hai... Pratica di grappla. A parte che sono gli ultimi, comunque può essere, però... Rani. Sì, Rani. Se no cosa faccio tutto? Perché non si conforma con la mia strategia. Faccio Frostbite, sono in grasso. In quel caso tanto comunque i raggi li fanno, vai apri quelli sul tetto. È perché così ho solo non serve a niente grapplarli. No, non serve, scherzavo. Scancella quello. Cosa, scusa? È perché se faccio io sono un attacco poi. Lo so, però almeno se poi sei lì. Se no puoi fare... Scusa, fai le conoscenze di quando sono immuni, così cos'ha. Posso fare questa cosa che è molto molto bella. Almeno sai quando sono immuni, no? Vabbè, aspetta, che conoscenze è? Fare i raggi belli. Che conoscenze è, scusa? Fai i dungeon. Perché, sai perché? Così almeno sa se c'è l'elettricità e fa il... Dico solo che dentro la frase c'è un permanentemente. Ma io ho detto che non li voleva, lui ha detto li voleva. Lui. Poi io tipo per i gagni. Ah, permanently blinded. Magari. No. Cosa? Cioè, non mai che magari. Magari. Vai, se faccio 21 so se sono immuni a danni d'acido, quelle cose lì. Cos'hai fatto 21? Sì, sì, lo sai, non sono immuni a niente. Neanche fuoco, quelle così. Ok. Allora, vengono tutti in faccia questi. Ma tra l'altro che sono un quindi mi avvicino, se faccio questo, però se mi avvicino non posso attaccare. Però ti puoi avvicinare e poi una volta potevo usarla. Il prossimo round. Beh, potete incazzare, non ti sei sa fare così, sì. Fare East e poi avvicina. Faccio East e mi avvicino. Bravo. 5. Oh. Sai che fotte? Io mi infuocavo anche la croce, ricordato che, adesso. Che danni fa? Bellissimo. Ho fatto i danni. Ti ricordi? Io faccio i danni nessuno anche dei miei alleati. Fai Ace. Okay, a quale si avvicina a suo? È uguale al tuo, l'Ace che fa lei. Sono tipo un god, anch'io faccio i danni nessuno degli alleati. Morendo. Bravo. Scusa, però. Cos'è che fa? Mi avvicino al suo e cerco di attaccare il suo visto che lui sta morendo. Oh, sì, però. Tu su due hai colpito con la più, eh. Oh, già è vero, scusa. L'opportunità è... Altri 5 danni. Zanino. No, ho già preso uno. Posso dire io? Cioè, senti, voglio sapere. No, no, ce l'ha bene. Ah, vabbè, come sono? Due davanti. Non l'avevo ancora usato. Due dietro. Allora, sono già in pratica due e uno poco sotto la testa, cioè, al muro. Ma così fai. Cioè, metti che io sono qui disegnare. Veramente. Ragazzi, il mio personaggio dove sono io adesso? Piedi a tentare di capire. Ragni come sono questi? Sono una scena fantastica. E poi uno tipo lì sul muro così, subito a ridosso del suo. Quindi in diagonale, uno, due. Sulla mia tavola. No, in orizzontale. Quindi uno e due. Cioè, così, sono davanti a te. Giulie. Ok, cioè sono... Ti segnali davanti. Guarda, hai visto che belli che sono? Davanti a me qua, guarda che stanno siano un po' okay. E poi uno più lontano. Già sono stretto con due cose di peloso. Sono uno. Tu ti lamenti, due. Io qua con cinque di questi schifosi da solo, c'è non anche di chiede, c'è non hanno solo. Esatto. Poi che cazzo di ragni sono con le chiede? Sei buttato nella allora tocca a me. Sono il cane, vuol dire che no, mi alzo, scusa, mi alzo io, Davide, ma il mio personaggio invisibile fa divide timpera e fa un wall of force davanti a loro. Cosa fa? Muro di forza. Un muro di forza qua. Forza. Sì. Ma sei contento cos'hai incantesimi? Cos'è che non può passare attraverso? Niente. Nulla. Te l'hai colpito? Però possono proprio prendere danni. Posso fare solo Ace. Però posso provare di scudo. Ace mi avvicino. È solo lui. Sì, però minchia. Sai quanti PFA? Infatti. 20 per livello. Infatti. 260. Ma io a chi sono grapplata? Cioè chi è che mi sta grapplando? Esatto, quindi sono tre ragni bloccati. Quanto è grande il muro? Tutto tranquillamente. Sì, perché è tipo 10. Ma scusa, ma le linee quadrato da 10 per caster level. È un quadrato di 10. Tutti. Le mie frecce. Sì, no. Il concetto è battiamo 2, poi battiamo 3 anziché battere 5 insieme. Ah, non ho capito dove hai fatto il muro. Gli handicap non sono in modo da fottere quei tre che lanciano a raggi, appunto, che sono molto più forti di due cose. Ma che ero indietro rispetto agli altri. Io come faccio a fare il tanto bello? Ah, cioè, praticamente questi qui sono sul e glielo fai qua. Fare a lui però, e voi siete io, qua, capito? Io ho fatto il muro qua. Questo gaggio. Così loro fa, sì, fa, fa. Sì. Io ho capito che erano più avanti, cioè, ma tra gli quante forze? No, invece no, che sto apposta ed erano più indietro, pam. Permanentemente, non sai cosa. Ok. Cioè, sei morto permanentemente. E qui ci sono due cattivi che voi dovete uccidere. Sì, ma posso capire, sei morto qua, cioè non puoi neanche tornare in vita. Perché lei è in grab su questo. E beh, prima ha detto che si prova a colpire quello che lo sta. Ma in grado grabbando, lo colpisco, no, sicuramente. Tu mi sento lui. No. Sì, ma perché tu non vedevi, avevi una possibilità su 4 perché c'era, cioè, come se si colpiva. Che colpivi sicuramente perché, cioè, se non è che una, io avevo detto che era quello in grado su di lui. No, una volta che tu becchi il quadretto, cioè lui lo colpisci sicuramente perché okay. Per colpire un po' più alto, diciamo che se mi avessi colpito probabilmente sarei morto. E ma io dicevo 35 piedi. Il fatto è che sullo stesso quadretto c'era lui e il ragno perché era in grado. No, ma in realtà non sono sullo stesso quadretto, no, allora dai, okay. Niente, basta, non faccio più niente. Ne avevo 152, me ne hanno fatti, no, i danni. Vabbè, allora sì, perché io colpisco, provo a colpire quello che stava aggrappando lui. Vai, sciottalo. Che poi ci penso io a fare un pull up, okay. Se posso, mi capi. No, dov'è? Tu basta la cresta, va, che hai rischiato. Che rischi sempre di morire. Sì. Quanti PF hai? 10? 35. Tanti? 35, esattamente. Mamma mia. Sai perché ho 35 PF? Perché ho dei compagni che non sanno se sono tanti. Non sarà nessuno, non sarà nessuno. 29, 29. C'era il più bello. Grazie che non ti hanno messo dall'altra parte. L'ho colpito con 29. Forse. Wow, 29 sarebbe stato molto figo, sì. Venditela da solo, 15 da 15 da per iniziare a menare. Poi sarebbe morto su quello che è su lui, giusto? Sì, okay. 25 l'ho colpito? Sì. No, sì, sì, sì. 17 danni. Non vedo le serve di danno. Vediamo bene Wall of Force, cioè qualche... per la diata uno. Così poi non ha altri talenti un po' più forti, visto che qui questo qua il teatro che faccio, no? Quello che ha sì, quello fallito. Che ha fallito 14, 31 preso? Sì. 13 danni? Tu hai messo? Aspetta, infatti. Sai che è morto un paio di attacchi fa, eh? No, no, no. Guarda, non ti piaccia? Ehi, ha fatto 30 danni, cioè ha fatto 40 danni adesso in totale. No, non ne ha fatti tanti. Non ne ha fatti tanti. Tiro basso. 40. Una volta l'ho preso e... Hai fatto 45 danni, sì, forse è tirato un 1 ma è lo stesso che stava picchiando io, ha picchiato, sì, è lo stesso. E sta roba buona, sta roba la faccio del coso del muro, del muro. Ah, ah sì, scusa, l'ultimo attacco era, sì, era morto un attacco prima, allora fai che l'altro attacco ha fatto sull'altro. Pensavo fosse messo meglio. Tra altri tre comunque. No, aspetta. No, non è vero, non era morto perché... Vabbè, allora sarebbe il caso. Allora stop, così non era prima. Era giusto, molto bene. Perché c'ha anche un fast healing. Ah. Ah. 5. Però per quel 5 era ancora lì. Prossimo attacco. Sull'altro. Quello su di lei, no? Sì, quando si 17, no. Ti 17 no. No, fast healing è ogni round recuperi. 31, sì. Il genere non è se più di colpire. Non è così male. No, 14, no. 14 danni. Però ti fulli subito fuori il combattimento. E l'ultimo attacco è un cioè, bel uno. Penso che un PG potrebbe essere inutile. No? Comunque, carino per fulli. Il barbo è libero di. Tocca a te che sei in grapple. Il barbo è libero. Lui non mi deve fatto essere appellato. Hai guardato il suo haste? No, sì, ha fatto 7 attacchi. Sei contato anche il keyboard. Non mi deve sgrapplare. Tu devi provare a sgrapplarti. Come faccio? La tua CMB ridicola contro la sua CMB stralta. Puoi fare qualche... c'è qualche parte che vuoi fare? Non può spagare. Una mano, raga. Sì. Sì, può che spara gli in testa. Però prende attacco d'opportunità per ogni volta che spara. Perché usa l'arma range MD. Perché se proprio gli attacchi d'opportunità... Non c'è il talento, male. Scusi, però... Sì, c'è, ma... Cioè, sei a un livello alto, poi lei è stretta con i talenti. Oh. Tu... Te lo da bonus il morbo per quello che ce l'hai. Che talento è? Infatti ce l'ho. Di combattere la vicina. Tipo Point Blank Master, forse era quello. Ah, Point Blank Master, sì. E se invece quello. Cerco di morderlo... Cosa vuoi fare? Tu c'hai il morso, vero? In quel caso no, non provo. Dai, mordilo. stop, che hai una gomitata. Prendevi Mordogo, basta. Allora, se cerco di sgrapplarmi ma non ce la faccio, posso morderlo? No. Quindi prima mordilo. Prima. Comunque se fai il morso non puoi che fai sgrapplarmi. Allora, se puoi sgrapplarmi, porca troia. Ma scusami, anche se fai 20 non lo superi, secondo me. Con 20 è successo automatico. Ah, anche delle prove, penso di no. Beh, quanto devo fare? 20. Penso 20, basta solo. Sempre 20 questo gioco. CMB o CMD? CMB e 11 se devo fare 20. Devo fare 20? Sì. Mosso. Forse mi fai più danni. Trova la gota che in te fa il mosso. Mi conto che la sua stat è troppo... È troppo... È un D4. È troppo per te. È un D3 di scappare. Di tre di cosa? Cosa? Di danni. Rendi conto che la sua stretta è troppo potente. Non ma se io faccio un morso, faccio un ride 3 per il morso. Più la tua forza. Digi. Una volta. Una volta. Ho ucciso più boss in morso. Fa che. Proverà a far 20 sul dado. Penso di fare un danno. E se invece provo a sparare. Un danno. Però. Non sai se la combat reflexes oppure no. Se può fare, non sai se è talmente abile da riuscire a fare, da riuscire a colpire tutte le volte che tu sparerai. Perché in genere un razzo può fare un attacco di opportunità, capito? Cioè, può farti solo un attacco. Appunto. Però se ha un talento particolare, può fare un numero di attacchi pari. Può provare a fare due attacchi. Ma scusami, te quanti PF hai? 47 più 7 fa? 54. Ok, fai 102 nella 54. Ok, sei a metà PF, non ti conviene perché se ti fa due attacchi un coso ti sciotta. Oh, che cazzo fa? E se ti fa il raggio? Ma non ti fa il raggio, ti fa le chele. Ma tu non lo tocca a te, lo picchi questo, è morto. Sì, probabilmente lo picchi. E allora, tanto male che lo fanno. In effetti c'è qualche aspettare e aspettare che tu lo uccida. Pensando, non ti aspetta danni gratuiti, no? In effetti sì, prova a sgrapplarmi. E fai 20. Due cazzo, quasi. No, ho fatto 20. Questo intento non funziona sui colpi della pistola. Da qua. Che dice solo, però dice solo Arrows, Crossbows. Ok. Poi dice Shuriken contro come Arrows. Ma scusami, ma non è che magari quando. Anche se dice Projectiles. No, gli ho dato Arrows. Però non è che magari. Allora non ha chi. Dai, è un bacca. Sono libero dal grab. Quanto è lontano il suo. Cioè. A distanza di carica. Ok, carico e picchio. Julie, hai un. Carica. 16, minaccia di critico. C'era sua mamma. 17, critico confermato. No, troppo. Veniamo a risuonare i grandi culi. Dave, ti serve ancora il carica? No, prendilo pure. Sicuro? Sì. Vieni qui, bergaglietto. Adesso sono davvero arrabbiato. Ma non ce l'hai in grab? Incanto anche l'arma col fuoco. Ma niente, se ce l'hai in grab. Non carica anche lei. No. Non me ne frega un cazzo. Carica anche lei. Lo salto per il colino. Vieni qualcosa? 4 10 carica anche lei. 10 ha detto 62. 62 c'ha mezza vita. Io appena detto il fatto che c'è mezza vita, non mi frega un cazzo, carica anche lei. Questo è da scritto barbarico. Secondo attacco, vabbè, mi sa che non l'ho preso, però sono 26. Capito. 26, 30 danni. Terzo attacco. Basta, è morto. Come è morto? È morto. Non c'è qualcun altro vicino che posso picchiare? Ce l'hai. Ma scusa! Ma forse ti puoi... Tocca i ragni che sono dietro il muro di forza. Quindi mi ha sgrapplato? Sì. L'ho ucciso. No, corrono indietro. Cioè, si spostano un po' indietro. Ma il muro di forza sotto che forma si manifesta? Cioè, non c'è quanto prenderci alle spalle? Ma lo vedono questo muro di forza? Che cos'è? È un muro tipo invisibile. Lo so, io pensavo di forza. E lo sentono? Sì. Ma se adesso tipo la carta. Cosa fanno? Quando tira giù il muro di forza? Cioè, ma attraverso il muro di forza non possono passare incantesimi? No, dice che guarda, c'è scritto così. Aspetta. Raggi belli. Dice che subisce danni da spell like abilities e robe così. Però poi blocca line of effect. Cioè, i raggi gli fanno danno. Dice, vabbè, è immune di spell magic. Ah, immune? Dice, can be damaged by spells, tranne disintegrate che lo distrugge. E, può essere colpito da weapons e supernatural abilities. Però dice, ma un hardness di 30 è un numero di punti ferita di uguale a 20 per il numero hardness di caster level. Direi che l'attacco che fai togli 30. Ah, minimo. Però non si applica ai raggi, non lo so. Così. No. Non credo. E basta. Poi dice, vabbè, contact con una sfera di annichilamento. Dimension Door ci passa in mano. Blocca line of effect, basta, ragione. Beh sì, il muro blocca line of effect. Il raggio poi ci impatta. Non so se provare a fargli fare il giro. Oppure fargli colpire un solo punto. Pum, pum, pum, pum. Beh, 200. No, l'altra idea, l'altra idea è che aspettano che voi avanziate. Tra un round io lo dispello, ovviamente. Io direi che indietreggiano e aspettano che voi avanziate. Preparano un attacco, non posso. Sì, infatti, preparano un'azione. Assolutamente. Ok. Non benissimo. Cioè, quindi vuol dire che appena ci vedono ci lancio i raggi? No, che appena dispello il muro lancio i raggi, certo. Quelli forti. E non possiamo preparare l'attacco anche noi, fratello. Sì, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. Tranquillo, prendiamo sto cazzo. Io non esco da lì, se finisce. Ok, loro niente, fanno, vedete che siamo qualcosa in mano, ci inventeremo. E vi fissano così. Qui adesso abbiamo tempo. Carica gli occhi. Poi esplode l'anno perché poi si fa carico. No. No. Pensavo si fa caricasse e esplode. Possiamo anche pensare ad andarcene. Ma dalla parte il fatto che Istria la rima, il finocchio dov'è? È lì che spinge il tapir run. Posso smettere di spingere? Con due. Ah, sì, l'ho detto con due. Con lui incantese ci andiamo. Io continuo a salire. Sì. Perché altrimenti. Fammi vedere. Cioè, vado male coi piedi. Perché stiamo entrando qua dentro? Per raggiungere la Asratite, non è che ci possiamo andare. Non è che siamo entrati così a caso. Non è che qualcuno. Per vedere se c'è Asratite. Sì, esatto. Possiamo dire aggiungere che c'è, che non c'è Asratite. Tornare. Abbiamo controllato per bene. E morire di fame. E fallire la missione. Guarda, non c'è nessuna Asratite. Andiamo più avanti a cercarla. No. Beh dai, se non c'è Asratite qualcuno vuole proteggere bene in questo posto, no? Magari c'è qualcosa di interessante. Ma esatto. Magari c'è un'arma super forte che ci permette di uccidere Junker Shack. Che dovresti uccidere? Vai! Così prendo il conto della mano. Ma cosa? Loro fanno questo. No, ti tocca. Tocca a voi, ditemi quello che fa. Io qualcuno ha delle cure? Morto, sono morto entrambi. Cosa? Ah, tutte e due! Sì, qualcuno ha delle cure o qualcosa, tra parentesi, giusto per... Io ho Ial. No, fai Ial nel senso. Pensavo. Infatti c'è. Ah, sì, ho l'abilità. Ok, posso preparare un'azione. No, ti cura. Io preparo un attacco. E poi se ognuno ha preparato l'azione si fa un tiro di iniziativa contrapposto. Io sto indietro. Io non carico. Preparo l'attacco. Sì. No, no, aspetta, no, perché siete ancora in battaglia. Quindi, no. Sì. Quindi si fanno. Triggerano entrambe le azioni. Basta. Quali prima? Dipende cosa avete preparato. Sì, contemporaneamente. Io preparo la freccia. Distruzione assicurata, vai. Dai, forse facciamo così. Sì, che figata. Allora, no, però aspetta, non posso perché devo dispellarlo. Aspetto che la fine dei round. Minchia. Quanti sono? Dura 12 round. E sono 12 round che lo stalini che butto via, Ti disiri. Se vuoi, per il ho 35 round, pf. Niente, vabbè, cominciano a girare, giusto. No, Davide, più che altro 35 pf. Se esco da lì, sì, vado a zero. Ok, allora facciamo così noi. Cosa? Calma. No, altro. Cos'è che facciamo? E siamo fermi. Per quanto tempo? Aspettiamo se loro se ne vanno. Per quanto tempo? Dai, tre round che loro se ne vanno. Ma se dobbiamo entrare qua. Non fate niente, due di loro vanno via. Bene. E l'altro? Se vengono dall'altra parte? Perfetto. Ok. E se vengono dall'altra parte? Esatto. Io guardo le spalle. Aspetta, appena se n'è andato, faccio un volo vice dall'altra parte. No, c'è Istgal. C'è il finocchio. Ah, aspetta, tiro il finocchio. Che me l'ho dimenticato anch'io. Tiro il finocchio. Per... Ma cosa sono quelle due cose? Vabbè, lui lo tira. Schifo. Io tiro il finocchio. Vero, lui intanto. Ok. Lo tiro più di più. Cosa che. Ah, domanda: sei rotta la schiena? Sei rotto la schiena per caso quando l'ho tirato? No. Ah, come mai non sei rotto la schiena su un tapirulamento che lo tiravo? Che nessuno sapeva che era un tapirulamento. Poteva esserci una forza. Che ti rompeva la schiena, sicuramente. No, quello e io non ho subito alcun danno. Cioè. Tu sei forte e robusto. No, i danni li prendo lo stesso. Sei fatto per prendere i danni, sei un barbaro. Allora, cosa volete fare? Che quando arrivano. Loro però. Ma quando in qua un barbaro si lamenta dei danni che prende. Allora adesso sono ancora in combattimento. Possono preparare un'azione appena attacco. Li vedo rasdraggio. Ti colpisco. 28 e passa. Quanti danni vuoi? Allora non faccio quello che vuoi. Loro arriveranno e si fermeranno. Ok. Allora no. Allora aspettiamo che questi due arrivino e si fermino vicino a noi. E poi ma perché ci stiamo facendo circondare? Mi sembra proprio circondare cosa? Ci avevano solo davanti, adesso ci abbiamo davanti e dietro. È ancora meglio così, ne affrontiamo due e poi uno anziché tre insieme, no? Gli ha fatto un muro di ghiaccio comunque. No, no, gliel'ho fatto. Ah, non gliel'hai fatto? No, non lo faccio perché alla fine ho pensato non serve, perché tanto arrivano. Ma voi sono scemi che continuano a girare così. Non fare. Cosa devo fare? Aspettare dietro il muro di forza? Non stanno lì, tra... Okay. Il loro compito è eliminare gli intrusi. Fa intelligenza cattiva. Exterminate. Ah, exterminate. Beh, sono così intelligenti quanto me. Dai, aspettiamo che arrivino. Voi se volete preparate l'azione a distanza. La prima cosa che appare... Prendo sicuro, io... Prima cosa che appare, compreso, compreso Istrial. Ah, giusto. Ah, non possono preparare l'azione? Ok. Allora via, facciamo così. Cosa? Cosa vuoi fare? Veloci che tardi. Dai. Tiriamo un iniziativa. Presto che tardi. Eh sì. 9 totale. 16 più 17. 33. 33. Lei 33, io... Come solito agisco per 8 e 5, 24. 13. Ma lei 33, io... Tu agisci per prima. 16 più 17. Io 18. Io li vedo... Cosa fai? 33. Io sto giro non carico, quindi sono cazzo. Sono vicini? Vicini, dipende per cosa. Per caricarli. Volevo fargli qualcosa di fuoco. Tipo? Scorching Ray? Io l'ho chiamato ragionamento. Ragionamento. Ok, sì, ragionamento. Ok. Devo fare il diventi più, la VAB più destrezza. Gli fai ragionamento e poi magari ti avvicini. Ma affrontando l'uno o i due? Due. L'uno è dietro il muro. 9 più 4 più 6. No, 19. Touch, sono di quello. E dov'è? No, un D4, fa schifo. Istral. Ecco, sono Istral, 4 no? Di 6. Sì, l'ha tirato. Ma dai, quello nuovo. Che ce l'ha lui, così lì. È un D6 bianco e... Ah, questo figo. Sì, perché è la prima volta che lo vedo, scusate. Bellissimo, sì. Questo. Oh, scusa. La caramella. Sì, l'ha chiamata caramella. Ma vabbè. Non abbiamo pensato questo. 5... 2, scusa, se non 2. No, di che cosa? Di cura feriti? Nessuno 3, 8, 8 su 6, 14. 14. Sì, però, ma, non sono sì, ma io ho scritto 3 volte, mi sa che ho sbagliato. No, devo tirarli ancora? Mi fanno con gli occhi per colpire. Ok. Aiuti in certi casi a superare il veleno. Uguale non a cura, prima. Cura. Se si tiri. L'abilità cura, non cura. 8. Ironico, ma è così. Più 3, 10, 16. Okay. 18. 18. Cosa stai facendo? Subito. 3 volte devo farlo. Ah, 3 raggi 20. 3 raggi, sì, sì. Ma non è così. 4, forte, 10, 17. Come blast è forte. 17. Sono scritto. Il survival magari cosa è di 1? Di secondo me. Ma adesso posso anche attaccarlo... Perché però ti puoi avvicinare così poi gli fanno esatto. Più orientarti, mi avvicino però per orientarti proprio... cacciare la preda per sopravvivere, però non ti cura lo stesso. Cosa? Ah, mi avvicino intanto per ok, dopo di lei tocca Ragni che ha fatto 26. Io sono, non sono davanti, no, dove? Sei chiaro, sto bene indietro a coprire le spalle. Faranno i raggi belli su Giorgio, tanto per cominciare. No, poverino. Io tifo per il ragno ancora una volta. Primo tiro per colpire. Guarda che... Boh, non so come gestirla. Se... Dai, non glielo fare. No, faglielo. Così soffre, così impara a stare sul tapiculare. Cosa fa sta ragione? Fa sta sul tapiculare. Se lo fallisci lo scopri. Non si può morire per colpa di... fine battaglia. Colpisce una touch di 25. Io ho 24. Ole! Ti ha colpito? Io sono mezza tempra. Tempra? Cos'è? Forse mi sì. A me mandava di culo se avesse fatto. Poison spell là? No, è su. È su, poi un altro con l'abilities. Quindi sono 12 in totale. Devi fare un. Devo fare. Beh, solo 7. Cazzo, zitto! 3! No! Meno 1. Vedete il monaco diventare di pietra. No. Cosa? Perché ti ho torpicato permanentemente? E l'altro lo fa su un altro a questo punto, sempre il raggio bello. Cosa? Andiamo su chi è pazzo. No, direi che ho avuto una bella errata che dura minuti, sì, ore, giorni piuttosto, una permanente. No, dura minuti, dai. E ha tirato un dado senza stabilire come l'ordine, però aspetta, allora 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, scusa. Perché? Sono no? Invisibile. A lui non prendo mai niente. Tre. da dover cambiare. Vabbè, dai, tiro te. Ma fa solo questo sto raggio. È molto più sicuro mentre pietra lui. C'ha 35 pf. Vabbè, ma probabilmente lo supero. 19. Ah, non bellissimo. Cazzo, colpisce una 18 di attacco. Tirato 2. Ho 12 di attacco. Ok, ok. Fai tiro senza tempra, però per te è più facile, dai. Fatto 37. Tranquillo. Proprio mangio il gaggio e lo risputo. Questa sera come free action facevano diventa pietra permanentemente. Will of Save or Die. Dai. Free action. Va bene. 5, 5 Save or Die. 5 Save or Die sono stesso. Vabbè. Infatti quello che dicevo all'inizio, potrei fare questa cosa, ma direi che no. Ma se mi trasforma di pietra. Cioè, se mi trasforma di pietra sarei stato a minuti forse. Sì, ma è permanentemente. Non so, capito che in realtà è permanentemente. Sì, lo so. Però vabbè, è cagata. Permanente. Per sempre, la parola che significa. Basta, sei morto. Sei morto. A meno che non usiamo Wish o Miracle per togliere che è un incantesimo di nono. Per no, beh, probabilmente c'è anche. Ah, Stone to Flesh. Stone to Flesh, ma chi ce l'ha? Nessuno. Druido ce l'ha. Dobbiamo salire di livello, lo devo prendere io dopo e poi devi tornare. Ma scusa, Junkai Shack ce l'avrà di sicuro. Ma cosa? Un monaco? Che cazzo dici? Junkai Shack è l'ottimo, come si chiama? E il Aberton è morto. Morto. No, l'unica la witch. La cosa è una chierica. Lo sciamano. Che è una diabolista. Ah, figo. La cannibale potrebbe darti una mano, ma... La cantora? La cantrice, no. Troppo lì, è alto. Vabbè, comunque dai. Comunque dura minuti. Allucinante. Come dura minuti? Dura minuti, non è per materia, non ti faccio morire. Abbiamo così. Deciso che non sei morto. Cos'è? Ti lamenti da quando si lamenta un monaco dei danni che prende? Ok, questa è la free action comunque. Ok, tocca sempre a loro che avanzano, attaccano chi non è di pietra. Tu sei rimasto indietro, hai detto. Io sono rimasto un po' indietro. E chi vedono? Uno e due. Ma tu sei tanto sei andata lì. Ah no, te che hai fatto tanto. Un sacco di danni. Io ho 35 pf. Mi sa già che non mi attaccano il tesoro di pietra. Non so perché ho fatto un errore cosa. Sai che bello. Dovresti renderti di pietra più spesso. Ma se io mi nascondo dietro le luci di pietra. Lo fai il tuo turno. Cioè, una di pietra. 20. Ah. Contro chi? Di te. Tachela. Tachela. Tachela. Cioè, sono zampacci, Clow sono. Clow sono artigli, veramente. Vabbè, sono artiglioni di ragno, va bene? Sono lo stesso. Sono le zampette più osele di ragno. Comunque ti colpisce lo stesso e conferma il critico. Anche se sono artigli anziché che. Sì, non hanno mai d'affetto. Ma perché io? C'ha ragione. Perché io sono rimasto indietro. Ma io? Mi hanno appena sgraplato. Non lo so, mi sa che hanno fatto sgraplato. Ma sgraplato, ormai vedono il buio. Beh, è probabile. Okay. Però ci vedi. Prendi una mangiata di Dark Vision, scusami. È Dark Vision. Sì, 13, proprio come razza. 12, 25. Beh, razza è fortissima sta razza. Infatti la prossima volta la faccio ancora, però come sì, barriere. Sì, la faccio come barriere. Una che l'hanno in molti, però è tratto. No, ma io cioè... La prendi come barriere, mi tiro via l'inizio del livello, perché non ha più talento a caldo. Sono più di metà. L'altro attacca lei. Anzi, se te lo prendi un po' io. Lo fanno 5 attacchi. È un talento che non metti. A livello 12 c'è colpisce una CA 15 talenti 20 no 20. Scusa 23 20 ma scusa ma la tocca è sommato il bonus intelligenza 11 danni vabbè 7 c'erano una su 3 di valire scusa un attimo ma se non sì, sì ma tanto comunque tocca a voi no di 2 ma ti tocca è 25 e ti prende come a voi vabbè. A chi volete di voi ragazzi scusa abbiamo tirato l'iniziativa vabbè uguale tanto possiamo uguale, decidere se vabbè attacco io perché mi sono rotta il cazzo di questi stronzi di merda tocca a voi devono morire tra sangue artificiale e vaffanculo posso mettere in mezzo attacchi lo fai no perché io posso fare un passo sì, perché ti ha attaccato sei a portata così ti becchi attacco opportunità restano i 30 feet comunque sì sì sì certo ok vabbè mi sposto un po'. No! Sì, un metro e mezzo però va bene. Indietro, sì. Sì. Gli faccio... Gli faccio... il deadly aim. Cacchio, questo non gliel'ho aumentato. Quando gli altri sono arrivati, l'altro ragno ha iniziato a fare il giro. È partito. Faccio il deadly aim. È una domanda o una informazione? Vabbè, io vado. Comunque, cazzi tuoi. Cazzi tuoi, tu se lo fai. Certo che lo faccio. 15 l'ho preso. È bello. Aspetta, quello che era su di te. non è quello che ha attaccato lei prima, ok. Cioè? Comunque tocchiamolo allo stesso l'iniziativa. Poi sì, cioè uno deve fare una cosa, perché sennò perdiamo il ritmo. Nessuno sa mai. A me sembra il contrario. Sì, mi sembra che siamo più veloci così. Sennò, sì. Ok. Decisamente. Sembrava e tanto, cioè, vuol dire agisci tu, agisco io, agisci, capito? Sì, adesso uno tra l'altro può dire quando è pronto, quello che vuoi agire tu, certo, che infatti io. È meglio, però magari ci distraiamo, non lo so. Vuoi agire tu o che agisco io? Mi sembra più veloce. No, agite voi. Ci sono io e basta. Lui è di pietra, dai, ho agito. Allora, 10, 11, 12, 13, qui posso picchiarlo, più se non è vicino lo picchi, più 16, cioè io se faccio un fuoco ne ammazzo uno. 29. E tu hai punz? Poi. Quindi se ti avvicini lo uccidi. 15 più 10, secondo me sì. 25. Anche perché sul suo ci sono già dei danni da fuoco, lei sta facendo x mila danni. 5, 6, 7, 8, 9, le palle 9 per fare, più per convocare 16, quei cazzoni lì a là. 29 fa... non lo so, ma comunque 27, non ti curano 27. Tanto alla fine. Fa 27. No, 5, fa 25. No, perché alla fine 25. Fanno solo due cura feriti, mi sono sbagliato. Io lo stavo qualsiasi. Due a testa. Io ho 22 vite leggere. 10, dov'è? Sì, io ho 2 vite nell'occhio. Messo 18, l'ho preso. No, 18. Palle, allora no. E faccio l'ultimo. Non è stata una grande. Ma hai fatti 4? No, ne ho fatti 3. Ce l'ho, è qua. Cura ferite leggere. Lo fai ce con Ace 6. Non lo so. Ma sono 3. Non hai fatto 2 bombe. Se non è per tutto il dungeon, io sono dietro. Sono ancora 3. Visto dietro, se no muoio. Posso usarne uno intanto. Sì, beh, ovvio. Che devi fare altri. Se vuoi ci provo. Ok, è letto sarà... l'ultimo. Non so di che livello sia, però. Vabbè, l'ultimo dal C da 10. Scusa, l'ultimo da 10. Hai sentito? 3. Hai fatto quello di Luis, no? No, 13 non l'ho preso. 13 totale? Sì. No. Allora faccio l'ultimo. Ah, ma sono touch! È vero. Sì. Così tu. No, allora tu anche quello di prima hai preso, scusa. Tira due volte i dadi. Esatto. 10, 15, 16, 17, 18 più 15 30 quello. 3. Sei più 10 su 4 10 13 15 più 18 più non 18 scusa più 16 15 più 16 fa quello lì l'ultimo che è quello con tu con fighting sulla... però questo è più 5 sulla rampa. 15 più 5 no, fa 20 lo prego. Ah, è l'ultimo questo 6 cosa? 10, 12 più 15 fa 27. 28esimo. Di farlo all'inizio. Perché non ci sono prima? Non l'ho fatto. Mi sembrava di averlo fatto. East. Ha fatto più alto di voi. Tranne che di. L'ho fatto io East, scusa. Ma io non l'ho fatto East. L'ho fatto quello di East. No, hai fatto 5 attacchi adesso. Ah, ne ho fatto solo 5. Corre. Solo 5. Beh, vabbè. 8 più 10 fa 18. Esatto. E fa 10, 16, 17, 18, 19 più 15. 19 più 15. Ha fatti 7 con 34. 34. Fine. Con key points e con. Aspetta, che magari con questo. Certo. Ma signor, sì. Ma in genere questo dato per cosa si usa? Ah, avevi un attacco in più. Il 12. L'hai fatto su lascia. Lascia due mani. Ah, infatti te l'ho detto. È troppo bello. Ah, no. Una forma tutta... Ah, ok, l'ho ucciso prima, nel senso. Sì. Ok. Vedete Damasco dire che lascio tutto un lato. Sì, sì. Sì, penso sarebbe una cosa molto... L'ultimo sul lato. Così è. Che sia una cosa molto giocata. Sono veramente schifo, ragni. Top. Okay. Senti, punzalo. Sì, sì. Carico l'altro. Che palle. Punzalo. Però non era così cattiva, c'era solo più permanente. Non era così cattiva, ma era da 35 PF ste merda. Cioè, li odio con tutto il mio cuore. Primo attacco, guarda, ho tirato un 2, ma vabbè, intanto sono 27. Guarda che non hai 27 totale. Di 2 di carica, voglia. Certo, scusa. Non ti bagno il registratore. I danni sono 5, 33. Secondo attacco. Io non ho haste, perché penso che... cioè, non ho fatto il TS, quindi diciamo che non ho superato. Secondo attacco. Perché c'è il TS da superare? No, no, io... per lui, perché? Perché? No, perché è scemo, perché è giusto che... cioè, se no... se vuoi lo faccio con haste. Certo, se preferisci. 30 colpito. Che TS devi salvare? 31 danni. Terzo attacco. 22 più 2 di calo. Grande. Sono comunque, se vuoi, altri 33 danni. Se ti avanza. Se ti avanza, non so se... sono... ok. Prima che arrivi l'altro, fate in tempo a preparare delle azioni. Infatti. Senti, volevo preparare una situazione un po' particolare. Grease fa uno strato di olio. Loro cammina sul... se lui cammina sul soffitto, se glielo faccio, lui cade. Scivola. Questo cammino sul vito, tra l'altro, è magico. Ah, beh, allora no. Waterwalk e Spider. Magari c'aveva dei macini, qualcosa che... io volevo attaccarlo con la scimitarra e fanno... e cosa fa? Non ha effetto. Ok. Cosa vedo avanti? Cioè, perché sennò dovrebbe cadere prono, anche perché cade prono verso il soffitto. Io che sono bravo, cioè che sono, penso, più avanti rispetto agli altri. Cosa vedo? Cioè, non proseguo la strada. Torni indietro, sta tornando indietro. Ah, è totalmente circolare, non c'è un... c'è no, scala. No, ci siamo, ci siamo girati perché dai, arriva, gli fate un attacco a testa, no? Mm-hmm. Immagino. Lo sciottiamo. È morto. È morto. Io pensavo è morto. Un attacco, fate. Perché? A parte che io non attacco. Io in realtà pensavo di fare... A parte che io non attacco. Posso comprare la goccia? Quanto... ma se io compro la goccia muove? Certo. Ma perché non resti? Ne sento soltanto i colori. Matita, scusa. È lui che non ha tirato, adesso è colpa nostra. Ah, io che non ho tirato. Basta con sta storia. Voi eravate legati, me lo leggo sulle anche. No, aspetta, fammi legare prima il finocchio. Il finocchio non lo voglio vicino. Io che dico, muoventimi, che sono dentro un dungeon, difeso due golem enormi. Che sono, poverino. Cioè, che gridavo per farmi sentire dall'altra parte. Dai, veloci, veloci. Adesso ti becchi tre attacchi, guarda. Cosa, guarda, due critici. Io in realtà... gli faccio, scusa. Vai, vai tu prima. No, devo fare prima io. La mia azione durante... io non ho preparato un'azione, ho fatto una, uno spell che si chiama Contingent Action, che gli dà un'azione da preparare in più. Quindi possono... lo faccio su... no, vabbè. Okay. Non so se farlo su di lui o su di lei. Io ho due attacchi al massimo. Ecco. Ma deve essere a milita, però. Lo faccio su di lei. Io sto capo. No, tu puoi preparare una carica, penso. Non so se può preparare. No, una front action non può preparare una carica. Però, cioè, se tu sei costretto a poter fare solo una standard action, puoi fare la carica come standard action. Però, cioè, non sei costretto perché la prepari, quindi no. Beh, se appena mi ha portato, ti ho una mazzata io. Ok. Direi che la fai su o di lei o su di lei. Su di lei. Beh, può lanciare incantesimi, se fai su di lei. No, non vale per lanciare incantesimi, ovviamente. Perché? Sei a lei. Se mi dai un'altra azione, io faccio la scimitarra più flying burst. No, no, che... puoi solo attaccare in questi. Faccio su di lei, si fa un attacco in più semplicemente. Ah, ok, allora sì. In più, più con l'haste. Tu che fai? Ah, no. No, fa un attacco in più adesso che la vedi. Pom pom. Che fare pom pom. Dai, dai, fai su di attacchi. Dai, devi shottarlo. Attacca. Che spiegazione. Attacco. L'ideale. Che fare pom pom. Qua due sono? Due, solo due, sì. Ok. Dai, 20. 20. Vai così col critico. Vai così con critico. Critico. No, scusa. È giusto. Che dato scusa? Per botte da hobby. 13, cioè, più 15. 15. Colpitissimo. Solo se fai uno devi dirlo. Dai, veloce. Tira sti dadi che lo ammazzi. Ma che ammazzi con lo stronzo di ragno. Ma aspetta, io quanti ne faccio? Sì. Devi tirare 4 di 8, 3 di 6 e di, sì, sono 60, no? 4 sì. Di 8 e 3 di 6. Ok. Quindi tiro quasi questo morto. E sono 7 più 5. No, di 6 solo una volta tirato. Ah, ok, scusa. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 14, 15, 16, 17. 17 più. Poi io 3 e 17 a mente. 17. 18, 19. 19. 24. E un altro. Sì. Più 60. 24. 25, 26. 26. Più 86 danni. 60. 6 danni, secondo attacco. Vai, cerca di fare un altro critico, mi raccomando, impegnati, eh. No, niente, 9 più colpito. 15. Sì, colpito, giusto, e touch. Dimmi che è volto. 6, 10, 12, 13, 28. Più 16, 30. 16 più 13 fa 29. 29, giusto. Danni. Basta. Ok. Giorgio, ah no. Ah no, lui è, lui fatto 100 danni. Lui è un cumulo di sassi adesso, non è. Cosa fai? Io posso fare l'incantesimo, volevo fare la scimitarra più flaming burst. Ma no, attaccalo, attaccalo, muore. Io ho preparato un'azione. È, cioè, una cosa dentro l'arma. Gli faccio i cosi di fuoco. Che da praticamente quello più ce li ho, me li fatti fare. Proprio dentro l'arma. Che figata. Cos'è? Non so come spiegarti. Bubbi. Bellissimo. Bellissimo questo. Cosa hai capito? No. Scimitarra è un attacco normale, solo che ho i danni della scimitarra più un di 6 da fuoco. Ah, attacco normale. Ma solo se è portata. Posso farlo? Se è portata. Cosa? No, non posso fare un attacco con la scimitarra? No, non è portata. Fagli il robo lì delle fuoco di prima. C'è un altro Scorching Ray? Sì, sì, no, due o tre. Dai. Tiralo giù con lo Scorching Ray. No, io se no faccio le mie mani bucianti. Ma... Non serve proprio la battaglia, non serve. Sì, l'ho colpito, però avevo colpito con 4. Ho fatto 8 adesso. Posso farlo? Veramente? Come si chiama mani bruciate? Non è mani bruciate. No, ma quella cosa lì che puoi lanciare tipo un coso di fuoco, no? Un raggio di fuoco, sì, faccio 2 di 6 mani di fuoco. 2 di 6 di fuoco, sì. Io lo faccio. 17. Lancio incantesimo. Ma è l'ultimo questo, giusto? L'ho colpito. 17 danni, vero? Sì. E ciao. 12, 13, 14, 14 più 4. No. Ok. No. Niente. Questi erano bellissimi. Ma come? Beh, se avessimo stato io con l'incantesimo era il top. Ok. Beh, però due dadi da 6 miei. Facciamo velocemente. Cosa fate? Cosa vuoi che facciamo? Vabbè, aspettiamo che ritorni normale. Le guardie che non arrivi nessuno. Aspettate che il vostro... Sperando che... Aspettate... Vi dovete aspettare un'ora che il monaco torni normale. Non sapete se tornerà normale. Fortunatamente torna normale dopo pochi minuti. Meno male. Cominciamo a stare storie. Io esco dal diga, quindi. Yanna. Yanna. Bacio, no. Battuto. Che personaggio. Cosa fate? Cosa facciamo? C'erano delle scale in cui bisogna andare. Abbiamo un barbaro con molto malato. Con molto malato, 35 molto malato. Con la febbre. Torniamo da Yunkai Shek per farlo curare. Sarà così sempre. Perché Working abbiamo... day, 5 io avevo un cura felice per... E non abbiamo le bacchette. Non posso fare qualcosa col cura ferite leggere? Certo. Sei l'unica mi tu non puoi evocare i bralani, tipo? Sì. Potevi pensarci. Scusate. No, posso farlo. Tuttora. Sì, ma non lo curano così tanto, perché alla fine sono solo due i Cure Light Wounds che possono fare ciascuno. Non è tu, Wilco, che pensare. Ah, cazzo. L'hai detto anch'io prima, no? Cioè, evocali nel... Vabbè, però... Sì, sono sei. Sei? Sì, sì, lo faccio comunque. Io sono full. Evoco... Voi? No. Io sono... Vabbè, però... Davide è invisibile. Davide finalmente si rende visibile. Cioè... Salve. Quindi dici, poi dai tu branali, vuoi che prima provo col cura ferite? Vabbè, ma faglielo il cura ferite. Dai, come si fa, scusa? Cos'è un D8? Okay, gli fai un lo curi? Cos'è leggere? Dai, cosa fai? Vi siete curati moderatamente, tanto Ma ma no, si vede quanti PFO, perché io ne ho 35. L'incantesimo di sesto, cioè me lo tolgo. Io sono a 23 media, senza stare a fare il tiro. Cioè mi hai lasciato a 23 da 102. Un maledetto schifido. Vabbè. Hai 23 PF? Sono a 23. Anche adesso è curata. Controllo, aspetta. Mi pare sui 15, sui 15 a carica. 15 per quante cariche? Tipo 6. E anche lei forse bisogna un po' di più. Anche lei bisogna di cura, 23 PF. Ma se quanto devo aspettare? Vai 3-3 per par condicio, direi, no? Per riposarmi? Lui, sì, 3-3. Però lui va più in fisico. Fai 2 e 4. Se vuoi la uccido, così mi prendo le sue cariche. Su io non posso farmi niente. L'ottima lì non può fare un cazzo. Ma lei ha io il persistente. Esatto, non c'ha qualche equipaggiamento particolare, una pozione, quel ricchione. Beh, no. Comunque, hai detto che dovresti tornare entro 3 giorni, giusto? Quindi. Ma ascolta, ma. Ok, no. Quanto è passato? Possiamo stare un giorno in cammino? Potete stare un giorno qua, quindi se aspettate 8 ore prima di proseguire potete... Però so... E quanto ci curiamo? E... siamo PF per livello. Tipo. Torniamo per 8 ore? No, che, 13 PF. Beh, a quel punto evoco 1000 bralani e ci fullano. Potete far così se volete. Ok, allora facciamo così. Vi dico. Come provo? Bene, visto che abbiamo del tempo, vedete che dico delle parole arcane così... E sulla parete si apre una porta, sempre desiderata di farlo. Prego, vi invito nella mia magione. Quella magione. E apro la porta e vedete davanti a voi un prato fiorito con una... Hai creato un piano? Una... No, non ho creato un piano. È casa sua. Vedete un bel prato fiorito con una bella casa, tutta ben curata, con un servitore trasparente che si avvicina. Signore, è arrivato. Finalmente, cosa possiamo offrirvi? Dello champagne? Volete una birra? Una frisella col pomodoro? Un po' di... non lo so, ditemi voi, il menù è libero. Si avvicinano altri servitori fantani. Prego, prego, potete entrare, vi dico, altrimenti non potreste se non vedesse la mia... Prego. Entro. Accomodatevi, prendete pure la stanza che desiderate. La mia, però non prendete quella... il secondo corridoio sulla destra. Posso fare un 3% a vedere se poi quella? Ovviamente. Posso fare un 3% a vedere se poi quella? No, vi ho detto di non prendere quella. Ma sono stupido. Ho specificato esplicitamente di non prendere quella, che è la mia stanza. Porta, ma è stupido. Posso, cioè, non lo so, ma io non lo capisco. È facilissimo. Io non sarei così stupido, dai. Io direi, solo ma controllalo. Vi riposate. Okay. Evo con 1000 bralani. Però qua è così, vuol dire che preparato degli incantesimi. Diversi il giorno dopo. No, ma aspetta un attimo! Fermi! No, ne ho preparati un bel po' di Summon Monster. Ah, ok. No, ma il punto non è quello. Se tu vuoi evocare un altro piano e sei su una cazzo di nave con noi... Tra l'altro questo incantesimo non si muove con una nave. Se ne può andare, posso stare lì nella sua... Ma dura solo 2 ore per livello. Posso star lì nella magione, poi tornando via. In che senso? Posso stare nella magione. La magione è un cioè è una realtà extradimensionale. Non è che puoi andare da altri posti poi dopo. Ma non esiste realmente. Sì, che esiste, ma è un'altra dimensione. È da qualche parte. È in un'altra dimensione. Però potrebbe vivere lì tutto il tempo senza stare con noi, no? No, sì, due ragioni. Che palle, cioè scusa. Sì, in effetti è una palle. Che belle sessioni che anche fa. La droga solo con i fantasmi. Ti ricordi? Ah, lei pure? Sì. Perché non posso farlo? Perché non sei un caster. Ci svegliamo la mattina dopo. Avete dormito bene? Benissimo. Benone. Bene. Ho i miei giro. Ho i miei equipaggi. Servi? Oh, santi Dio! Ma l'abbiamo fatto entrare. Esatto. Non mi ricordavo. Servitori, rifate i letti e preparateci una buona colazione. Bruciate il letto di Istra. Esatto, date fuoco al letto di Istra e prendetene un altro. Io ho dormito con la porta chiusa per qualche gas. Disinfettate la zona. La volta scorsa si è fatto trovare nudo legato al suo letto. Oh, sì, è vero. E ha ricevuto un bel blef. Facciamo una bella colazione con tanta frutta, marmellate, perché tipo sfama tipo 12 persone per livello sto piano. Cioè posso salvare tipo 120 bambini in Africa. Bambini in Africa. Ok, ma invece no. Quindi salite le scale e poi usciamo, sì. Ma dove stare? Non sembrano esservi altri guardiani all'interno della piramide. Aspetta, ma noi siamo ancora lì, cioè saliamo le scale. Salendo, non sembrano essere gatti. Okay. Le scale salgono su fino in cima. A chiocciola? No, proprio a chiocciola, fanno così. Cioè, da su. No? E fino ad arrivare a una stanza circolare che deve essere proprio su, è stretta, quindi deve essere proprio sul culminare della piramide. Al centro di questa stanza circolare vi è un buco largo per terra, di diametro di 3 metri circa. Per terra? Sì. Che va giù verso il centro della piramide. Buio? Buio? Lungo? Buio? Lontano? Potrei buttarti un sasso, non lo so. Possiamo buttare il twist. Fino a 60 piedi ci vedi e effettivamente vedi il fondo. Ok, lancio light sul sasso. Tu lanci light sul sasso? Vedi che è alto. Ma io vedo fino in fondo. Anch'io ho low light vision. Okay. Beh, vabbè, no. Lui no, però quindi lo faccio. Vedete che arriva giù fino alla. Ah no, in effetti potrebbe io vedo arriva più in basso. Io vedo questo fino, fino a. Vabbè, quindi non posso fare il light. Ah, capite quindi che va anche sottoterra. Cioè, quello simile. Ma il sasso con light ci dice qualcosa? Ah. Beh, sì, ci dice che è profondo centinaio di piedi. E noi a che altezza siamo più o meno? Devo fare una prova? 100 piedi, quanti sono? 30 metri. Di 30 piedi. 30 metri, noi siamo saliti di 10. Quindi. Qualcuno potrebbe entrare con una corda legata. Aspetta, questa sì sembra una buona idea. Tipo Istria. Che è proprio io? Non beh, sei il più agile e il più adatto alla situazione, no? Bluff. Mi piacciono i buchi. Qualsiasi tipo. Vedi? Quindi esatto, ma no. Bluff. Non è una prova di bluff. Ma mi piace i buchi assassini. Non è assassino. Se rischi di morire. No, non rischi di morire, fidati. Soddo, ma se la senti. No, ho un'esperienza del genere, ma forse non voglio attestare. C'è acqua in fondo. Posso buttarlo giù? Lo buttiamo giù, vi prego. Cioè, se non mi uccidete, lo butto giù davvero. Per me puoi buttarlo giù. Tanto è inutile. Ti malvagi. Alla grande, ma poverino, molto, però vabbè, dai, ragazzi. I rapporti più che altro, no, più che altro che lui ci dovrebbe portare indietro. Vabbè, non c'è più questa cosa dell'equipaggio. Vado a mandare, non ci sono anche più rapporti di incredibile. Ma vogliamo, ma vogliamo continuare ancora? Oppure chiudiamo a uscire da lì? Secondo te, chiudiamo la sessione o continuiamo? Perché l'una meno un quarto, l'una meno un quarto. Non so, se mezzanotte e poco più. Se scendete, la chiudiamo. Ma come scendiamo? Datevi qualcosa, date una corda. Vabbè, dai, io volo, lei io vola volo. E portiamo in braccio gli altri. Ci cadiamo con una corda. Scusa, ce l'ho, no. Aspetta, non so come scendiamo. Strafigo. Rope trick. Ah, ok. Sai che, tipo, in teoria ti porta in un piano dimensionale, no? Però lo puoi usare anche per scendere semplicemente. Senza. È più figo. Cosa fai, scusa? Niente, faccio così. Prendo la corda che mi sono portato, la lancio sopra il buco. E faccio il trucco della corda, che è praticamente un incantesimo che fa sì che questa corda si rizzi, no? Parecchio lunga, credo che arrivi fino in giù, si rizzi e vedete che l'estremità entra in un buco dimensionale, cioè vedete che sparisce, no? Uh-huh. Se la salissimo entreremo in uno spazio dimensionale simile a quello della maggiore, ma un po' più scarso. Un po' più scarso, in cui possono entrare tutti, eccetera. Invece noi scendiamo. Andiamo giù. Scendiamo. Figo. Anche se puoi volare, però. Scendiamo, io sto avanti. Esatto, però voi no, e poi è più figo. Ottimo. Allora, arriviamo giù? Arriviamo giù. Quando arrivate giù? C'è un golem di carne. No. Chi è che va giù per primo? Non ha molta importanza. Istria, ok. Ovviamente c'è giù lui. Attorno a voi. L'abbiamo buttato giù prima. È buio. Tuttavia. Dobbiamo usare un po' più di luce. Tuttavia. Un attimo. Io vedo. Non ho problemi. Tuttavia, a 3 metri da voi, vi è un'iscrizione di un cerchio a forma di pentacolo al cui cioè tipo largo tipo 3 metri di alto. C'è la carnivora? No, al cui interno vi è un demone che sembra essere palesemente intrappolato lì. Facciamo vedere ma io lo riconosco cerchio. No, come ho fatto a vederlo? È buio, ma il pentacolo è illuminato. Ah, ok. E il demone comunque. Ma che figo. Va così. Ma che demone è? Ah, ecco chi ha lanciato il sasso. Ah, non ci scusi. L'ha tirato lui. Se volete, chiudiamo qua. Sì. Peccato, lo parlaci. Ma lo sappiamo che demone è. La prossima volta. Bellissimo. Parlaci con il demone. Facciamo. Sai che io qui.